attenzione, l'aereo porto di Linate, mitico, sito su 36.000 metri quadri, incredibile, 307 voli giornalieri internazionali e internazionali, e i bambini si annoiano, no, fai volare la fantasia, falli visitare l'aereo, sì, forse perché un sorriso del mio bambino non ha prezzo. Live and direct from Radio ZAM, in cabina di regia per quest'ultima puntata dell'anno, io e il mio compagno di fiducia, lo speaker che tutti aspettavate, il compagno Gigi Proiettili. Bella raga, bella Twitch. Qui in sala con noi anche Mimo Mamo, e che è DJ Libero, e io, e la Buzzi, e che è Chiara, live dal divanetto, tutti e quattro appassionatamente, manca il quinto per il calcetto. Questa puntata è dedicata ai dischi dell'anno, quindi quelli che a insindacabile parere mio e di Gigi sono i dischi più belli USA, più belli usciti durante questa annata disgraziata, questa annata 2020. Prima di svelarvi quali sono questi dischi, con quindi degli estratti assurdi da questi dischi meravigliosi, al solito i due titoli italiani che vi proponiamo questa puntata. Il primo pezzo è un gruppo nuovo che fa trap militante, si potrebbe dire, trap compagna, con una dose di ironia comunque piuttosto massiccia, diciamo. Questo collettivo si chiama P38 e, diciamo, gioca un po' sul ruolo del trapper swagger e politicizzato. Quindi, diciamo, il primo pezzo che vi proponiamo si intitola P38 merda. Lo dedichiamo a Lammo e a Greta, e anche a Sveva, dai, che si infotta come una pazza a sentire questo pezzo. Dai. P38 ci tiene a specificare che il seguente pezzo tratta di temi sensibili all'uomo. Ma vaffanculo, porco Dio. Comunque, anche gli uomini devono parlare di propri diritti. Hai capito, cagna? Guido il pandino mentre scopo questa troia e mi misuro il cazzo col righello insieme agli altri nello spogliatoio. Io non ho problemi con le donne perché il cazzo l'ho tagliato. Stiamo pensando al cash, cago sopra il patriarcato. Io non ho problemi con le donne perché il cazzo l'ho tagliato. Stiamo pensando al cash, cago sopra il patriarcato. Mamma, potevi farmi nella media almeno come tutti gli altri. Ora ti davo della cagna. Il giornale parla, conta i soldi che guadagna quando copre l'animale che ha stuprato la compagna. Mi dà della troia, mi tocca la prostata con questa minchia di plastica. Ti prego, fai piano, poi sputami sopra la svastica. Mi dice sei bello, stasera ti porto a mangiare qualcosa. Metti la gonna, apri la bocca, vuole scoparmi strafatto di coca. Oddio, oddio, quanti maschietti feriti. Guardali meglio, son loro le bitch. Poi stranamente son tutti falliti. Sono un alpha man. Che bello, scusa non so cosa dico perché tutto il sangue mi è andato all'uccello. Io non ho problemi con le donne perché il cazzo l'ho tagliato. Stiamo pensando al cash, cago sopra il patriarcato. Non ho problemi con le donne perché il cazzo l'ho tagliato. Stiamo pensando al cash, cago sopra il patriarcato. Dici cazzate, vuoi farle passare come un'opinione. Vengo a trovarti alle 4 di notte, devo vendicare Tiziana Cantone. Taglio le palle, lo chiamo pastore. Piange a dirotto ma sembra che gode. Ti trovi in faccia la lama di Astore. Ti faccio a pezzi e nascondo le prove. Mi vesto da donna perché qua mi vogliono tutti virile. La notte mi sveglio, mi guardo allo specchio, mi faccio una sega coi guanti di crine. Che male, Non riesco ad avere un rapporto normale da quando ho scoperto che il cazzo mi piace. Non devo mostrarlo a chi cazzo mi pare. Io non ho problemi con le donne perché il cazzo l'ho tagliato. Stiamo pensando al cash, cago sopra il patriarcato. Io non ho problemi con le donne perché il cazzo l'ho tagliato. Stiamo pensando al cash, cago sopra il patriarcato. Io non ho problemi con le donne perché il cazzo l'ho tagliato. Stiamo pensando al cash, cago sopra il patriarcato. E oh, questo era il primo pezzo P38, decisamente un pezzo fuori dagli schemi. Io mi sono fatto abbastanza delle grasse risate, però condivido comunque l'idea del fanculo al patriarcato, la condividiamo tutti qua in sala. Allora, prossimo pezzo è da un rapper che apprezziamo tantissimo, che si chiama Speranza, è tratto dal suo ultimo album che si intitola L'ultimo a morire, e questo pezzo è particolare. Insomma, io ho visto un'intervista in cui presentava questo disco. Sostanzialmente tutti i rapper parlano un po' delle loro macchine belle, bellissime, sportive, super veloci, eccetera eccetera eccetera. Siccome appunto il nostro amico Speranza ha un po' anche esplorato il mondo rom, sia nella sua prima abitazione in Francia sia in Caserta, infatti anche nel disco è presente anche un featuring con Rocco Gitano, che è un noto cantante rom, ha voluto fare appunto un pezzo dedicato al Fan Caravan, che sarebbe un caravan, un camper di super mega iper lusso, proprio una vera casa su ruote, ma super bellissimo. Cioè proprio nel video lui è su questo camper molto molto sciccoso, proprio per come dire, rendere un po' un omaggio e anche prendere un po' in giro, diciamo, i rapper che parlano della loro macchina super mega, poi di solito è una macchina affittata, quindi vabbè. E allora abbiamo scelto questo pezzo qua, che si chiama Fan Caravan, e ve lo lanciamo adesso. E lo dedichiamo anche questo al nostro amico e compagno Norbi. Dai Norbi. E forno da pacchi, quante figlie puttane, a carovana pass, manca un uco una bai. Ehi, faccio spostamento d'aria, sto stando nell'aria Fan Caravan, Fan Caravan, Fan Caravan, tu vai forte, io in Fan Caravan, Fan Caravan, Fan Caravan, io lontano con la mia Fan Caravan, conosco i miei limiti, perciò che io vado oltre, i soldi mi fottono, i miei fottono esordio, non metto l'ansia, ti metto l'angoscia, gli occhi che piangono poi avranno lividi, ho il fegato nel Samagorna, penso diverso, sto con i miei simili, tra noi riformiamo la zona, spara Sud Gang. La difendo con un colpo in carica, nel settore sto fumando la IA, faccio abuso ma di fisarmonica, per frado minacciato dalle autorità, spara Sud Gang, gang. Fan Caravan, Fan Caravan, Fan Caravan, tu stai piti in Fan Caravan. Sto fumando la IA, faccio abuso ma di fisarmonica, per frate minacciato dalle autorità, spara Sud Gang, gang. Fan Caravan, Fan Caravan, Fan Caravan, tu vai forte, io in Fan Caravan, Fan Caravan, Fan Caravan, io lontano con la mia Fan Caravan, succo di frutta, zucchero e mollica, ti trasformo la cella in un bar, andavamo in rave per vedere i trip, solo ci ho capito che non va, vivo come Barney, la proteggo tipo dinamite bla. Vedi se amarre la cura do l'erba, mi bevo i locali e poi vado al pub. Le frères au ballon ne parlez pas, moi je le bralo donc pas les pattes. Braquage de banque, fais le pari bas calibré, tu verras bien mais t'as pas les bails. Guanta guay, guanta guay, in Uruguay, brillo di notte, i lampioni sono riflettori. Effetto come da supero una tappet, rimorchio pure in amore. La difendo con un colpo in carica, nel settore sto fumando la IA, faccio abuso ma di fisarmonica, frate minacciato dalle autorità, spara Sud Gang, gang. Fan Caravan, Fan Caravan, Fan Caravan, tu stai piti in Fan Caravan, Fan Caravan, Fan Caravan, stai lontano dalla mia Fan Caravan. E Oh, Spalla Sotto Gang. Questo era un rapper che noi ascoltiamo e sosteniamo, penso, dalla Spalla Sotto parte 1. Siamo arrivati alla Spalla Sotto parte 4. E insomma, finché continuerà a fare queste bombette, lo sosterremo. Mi è piaciuto molto, comunque, devo dire, il disco di Speranza. Sì, devo dire che anch'io me lo sono goduto. Uno dei più bei dischi italiani dell'anno, anche per il fatto di mescolare dialetto francese. Poi non so se ci sono anche altri, forse c'è qualche parola di arabo. Sì, sicuro. Può essere. Allora, i dischi dell'anno per me e per Gigi, perlomeno quelli che siamo riusciti a sentire, sono tre dischi USA. Partiamo dal primo, Run the Jewels 4, un duo che ha veramente spaccato a metà l'hip hop, su cui abbiamo fatto anche una puntata apposta, andatevela a ripescare su archive.org se non ve la siete beccati. È un disco che ci ha fatto anche, comunque, voglio dire, un po' rallegrato, tra virgolette, si può dire rallegrato, un pochino, anzi affievolito, ecco, la quarantena, perché appunto i primi due singoli sono usciti durante la quarantena e le grafiche, quindi senza bisogno di una grande anticipazione, ci hanno detto insomma che a breve sarebbe uscito il disco, quindi eravamo subito in iper attesa, iper hype. Subito appena c'è stato l'ordine del vinile ce lo siamo andati ad accattare, devo dire che anch'io l'ho pimpato parecchio, ed è appunto uno dei dischi più belli dell'anno, ovviamente non solo a nostro parere, anche insomma giudicato da moltissimi altri. Quindi diciamo, prima di parlare del disco, proprio vi lanciamo il singolo che, mentre eravamo in lockdown, ci ha, come dire, fatto fare un bel saltino molleggiato. Yankee and the Brave. This week on Yankee and the Brave. Back at it like a crack addict, Mr. Black Magic, crack a bitch back, chiropractor, craftmatic, big daddy smoking big, Cali in a black alley in a black granddaddy, rolling down old natty, how napping Maddie as a black granddaddy, all back, no cabin, fat black, boat captain, stay floating, no flapping, wave runner, I'm a gunner, I'ma have your block hot as a sauna all summer, and I put that on Osama and my motherfucking mama. I'ma terrorize the actors playing like they want some drama. I'ma chop them with a chopper till I motherfucking drop. Stack attic or Mac with the blackest fabric, I'm back, I'm magically racking the dash when I'm ducking, rat-a-tat-tats, I'm running the trunk of a sucker shit, matter of fact, it's the acid, even the crack, automatic facts, it's like that. Scam a bliss when you put in villains in charge of shit. All of us targeted, all we doing is arguing. Harder to miss it work until every pocket been picked and sold and harvested. I'm ready to mob, but he's fucking charlatan. Charlatan. City to grind, hearts fly, all this neon is ripping us up inside. Immortality's out of bounds, it's a one round ride. I got one round left, 100 cops outside. I can shoot at them or put one between my eyes. Chose a lad, it don't matter, it ain't suicide. And if the news say it was, that's a goddamn lie. I can let the pigs kill me, I got too much pride. And I meant it when I said it, never take me alive. I got the granddad running in the alley outside. The mic will run like you hungry and get your ass in a ride. I'd rather have and not need you than watch your rotten demise. And you still owe me, but I'm nice, you do not get to just die. You try to fuck with my brother, you get the bastard surprise. And that's more honest than your whole life in a fraction of time. I didn't get my degree in how to smoke weed till I'm blind, so you can ruin my high. You run a do when you buy. My brother made a point to watch the back door on the slide. A chubby husky thigh scrubbing, fucking up my Levi's. So crooked copper got the dropper, I put lead in his eye. Plus we heard he murdered a black child, so none of us cried. Yankee and the Brave in here, everybody hit the deck. We don't mean no harm, but we truly mean all the disrespect for. Beh, che intro pesantissimo, direi, no? Lievissima, anche poi anche con una grafica meravigliosa in cui ritraeva i due, che sono LP e Killer Mike, per chi non li conoscesse, a bordo di un'auto abbastanza maraglia, tipo una muscle car. LP era tipo tutto fuori dalla macchina, con in mano appunto anche un fucile, però bisogna dire rispettavano le distanze, in quanto erano a un metro l'uno dall'altro. E vabbè, allora LP pallido come una mozzarella, più o meno la mia versione americana, un pochino più imborsito, dai, sono più magro io. Killer Mike un pochino più cicciobello ed è di Atlanta, e sostanzialmente la canzone è un po' un omaggio al, cioè, essendo un duo hanno voluto fare un po' una parodia di, insomma, dei due duo epici, e alla fine Yankee and the Brave, perché? Perché sarebbe il ribelle e il coraggioso, ma soprattutto è un, il simbolo delle loro squadre di baseball, cioè Atlanta Braves e i New York Yankees. Ah, cazzo, non lo sapevo. No. Cazzo, fratello. Cazzo, fratello. Cazzo, fratello. Salutiamo Shady che ci ascolta. Bella Shady, grande. Passaci a trovare dopo. Bella Shady, prima o poi faremo la puntata su Tupac. Forse dovremmo farne 3-4 su Tupac, visto tutta la discografia. Allora, un pochino di storia al volo. Appunto, Run the Jewels 4 è il quarto album dei Run the Jewels. Ufficiale, quindi, non escludendo i vari snippet. È stato rilasciato quest'anno, è stato pubblicato il 3 giugno del 2020 via BMG, e appunto l'edizione fisica è stata venduta e spedita, io ho smadonnato parecchio, nel settembre 2020. Il Corriere me l'ha lasciata proprio sull'ingresso, meno male che non è passato nessuno a scavallarlo. E appunto hanno prima svolto l'operazione di download digitale con l'opzione di pagarlo, quindi da parte dei fan. La cosa è andata bene, sono stati raccolti circa $50,000 e sono stati appunto devoluti a un'associazione, ah, eccola qua, non la trovavo, lo National Lawyers Guild Mass Defense Fund, che è una fondazione appunto di avvocati che, come dire, difendono chi non se lo può permettere, visto che non penso che negli Stati Uniti ci sia il gratuito patrocinio, o insomma perlomeno sia una cosa minore. Quindi in 15 ore hanno raccolto $50,000, e quindi solo per dire un po' il tipo di cosa. Poi come al solito appunto gli album parlano, insomma, di andare contro il capitalismo, di contro le differenze e di essere uniti dalla musica. Su questa appunto falsa riga è arrivato il secondo singolo featuring, niente male, featuring Nice del duo Smooth, Nice e Smooth, per chi non li conoscesse, e DJ Premier, che riprende un vecchio classico dei Gangstar, appunto, che si chiamava Dweek, che era Gangstar featuring Nice e Smooth, in cui Nice gridava la la ah, wii wii, però nel rap, giustamente come un classico di Premier, Premier lo riprende e ne fa il ritornello. A voi, la la la. Hey. Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like where the bread. You go hold the egg, way to bring a check. When we talk, we collision cars. Keep us in your thoughts, fully dressed at the crack of dawn. Weapons letting off, I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greetings, the feeding season can start. Oh my God, look alive. Looking like I live life on a crooked line. Doing fine, you want maximum stupid, I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw, stay tall. Oysters on the half jail, switch your ball. Life a bitch and the pussy still fuck the wall. I'm a dog, I'm a dirty dog. Ha ha ha. Oh, dirty bastard, go in your jaw. Shimmy, shimmy, y'all. Got the simmy in the hemi. Go and gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics. RJ rule the damage, y'all. And I rap it, pornographic. Bitch, set up the camera. Ooh la la, ah, wee wee. Ooh la la, ah, wee wee. Ah, wee wee. Ooh la la, ah, wee wee. Ooh la la, ah, wee wee. Disruption, I got you covered, I'm busting. My brother's a runner, he crushing, it's no discussion. I used to be muskin', I wasn't supposed to be nothing. Y'all fuckers corrupted, I'm up to something disgusting. My pockets are plumper this season, I love the couple. I'ma pray to nothing but nothingness, ain't it something? warmongers are dumping a point and click at your pumpkin. You're suffering disruption, so put your kids in the oven. Fuck a king or queen and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we what you stuck with. I used to love Bruce, but living my vida loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we did it smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum. Ooh la la, are we weak? Hey. Ooh la la, are we weak? Hey. Ooh la la, are we weak? Hey. Ooh la la. DJ, DJ. E questo era la la la, penso il singolo più bomba dell'album, anche se più o meno sono tutti bomba. Tra l'altro bellissimo anche il video, tu sì. L'hai visto Gigi? Sì, una figata, sì. A me ricordava un pochettino quello di Party Rock degli LMFAO di qualche anno fa, però più figo, perché effettivamente cioè in una città distopica, però dei giorni nostri, la gente porta carrettate di soldi in mezzo alla strada e gli dà fuoco danzando sulle macerie del capitalismo, diciamo, quindi sì, anche, sì. Anche una versione compagnesca. Ricorda anche un po' il video quello dei Rage, Sleep Now in the Fire, girato a Wall Street, che si mettono a suonare sulle gradinate di Wall Street. Minchia. Solo che quello l'hanno fatto davvero e alla fine hanno dovuto chiudere Wall Street perché c'erano i Rage Against the Machine che facevano un concerto sulle scale. Ecco, belle cose, belle cose. Tra l'altro Zack Della Rocha dei Rage Against the Machine è presente in questo disco, insomma hanno già collaborato in passato, Run the Jewels, Rage Against the Machine, anche perché un po' la loro caratteristica è che comunque fanno dischi molto trasversali. Ma tra l'altro dovevano fare il tour nel 2020, forse è per questo che hanno avuto tutto sto Covid infame maledetto, che c'era il tour europeo e Rage, Run the Jewels. Figa. Tra l'altro io mi ricordo molto bene, essendo appunto stato, adesso non mi ricordo più cos'è, il settimo compleanno dell'Hub, l'ottavo, adesso non mi ricordo più, quanti anni sono, Chiara? Quest'anno otto, io mi ricordo benissimo il primo compleanno qui, quindi compleanno 2014, i compagni ci hanno regalato un disco che abbiamo ancora all'Hub, che è il primo disco di Rage Against the Machine, che si chiama Rage Against the Machine, sì, giusto? Bellissimo. Quello con il monaco che si dà fuoco, quindi grazie ancora compagni, perché è un disco bellissimo che ci ricordiamo ancora appunto di aver avuto questo regalo da grazie voi. Macho, che se non sbaglio l'avevi scelto tu, sei veramente un ragazzo dolce, un compagno generoso. Un saluto al compagno Maci, un esempio per tutto. Un saluto al compagno Maci, agli ascoltatori, si è anche connesso Beppone, Rebels, connesso anche Tuschetti, si è connesso Zacca, anche Grandi, Omar, anche Sharby, quindi la underground pusher massive, e che stavamo dicendo, appunto, un disco trasversale, quindi è stato molto apprezzato un po' anche da chi non ascolta solitamente hip hop, mi è stato girato anche da amici che si ascoltano normalmente la radio perché mi dicevano no, questa roba è troppo forte, effettivamente è molto trasversale, è stato molto apprezzato. E appunto, da un video geniale all'altro, perché stiamo per lanciarvi Out of Sight featuring 2 Chainz, quindi la connessione con la Georgia si amplia, e sostanzialmente questo è un video bellissimo pure lui, sostanzialmente ci sono dei giovinastri che entrano in questa casa museo piena di quadri, i cui quadri sono LP, Killer Mike e 2 Chainz, che li guardano e li parlano, praticamente cercano di scavallare le famose mani dei Run the Jewels, quindi quella che fa il gesto della pistola e quella che porge la collana, che sono state effettivamente realizzate, quindi in maniera, come dire, in 3D, spaccando appunto la teca dove sono nascoste, e poi si ingoiano praticamente queste quattro gemme di colore fucsia, che poi è il colore del disco, della copertina del disco, appunto ci sono le mani su questa copertina fucsia, si ingoiano queste quattro gemme, si fanno un mega trip in cui sostanzialmente sono ai piedi di dei giganti che sono semplicemente loro tre. A un certo punto 2 Chainz se li ammucca, anche se li mangia, e poi praticamente in preda a questi effettazzi scappano e insomma la fanno franca, però non male, a me piace anche molto il concept del video, perché insomma di solito il video hip hop non è così fantasioso, quindi mi è piaciuto molto come concept del video e noi ve lo lanciamo. Out of Sight. My motherfucking Uzi weighs a ton. Hit the drum till you hear it go. Run. Piety just really isn't us. What a rush. See you cutting up a pie. That's my lunch. Run. Your motherfucking pockets when I come. It's an honor to be robbed by Denise's only son. Yeah. Give her ready, baby boy. Bitty. Moving extra heavy. Whipping Chevy. Gotta get it. Eat spaghetti with the monster. Vegan bitches eat them dick cause they don't eat no steak and lobster. Sosa was my hero, honey. Tony's just a fucking hobby. Out of mind, out of touch, out of time. Man, I smoke a bogey backwards with a thumb up like it's fine. What? Sleep the stuff I say, suffer sweet divine. Leave me here to drown in glory, you're too good to cross that line. Run. Tragically struck down in my prime by the speed at which the bags are dropping. Should've watched the sky. You don't wanna live this life, it's really not sublime. I'm only doing what I want behind me. Loogies at the swine. Hey. Devastating, captivating, ghosting, ray relating, product of the fucking 80s, coke dealing babies, never regulating, bag accumulating, it would not be overstating to say they are underrated, proud of Brooklyn and the Grady, baby, we don't need no compliments or confidence, our attitude and latitude is fucking big, summer leather, bummer, duke, you broke, smoking indica, ain't a team as mean and clean as Jay Maline and Michael Rinderbrock, TV got no temperature, even if it did, bitch, we cool as penguin pussy on the polar cap peninsula, colder than your baby mama heart, when she found out you've been fucking with that other broad. And you ain't got that rhythm. I know you just about me fucking had it. That shit is just magic. Go figure the runs of the litter, did it without scamming. Was praying in the fat of the land on your man is mashing. We back in the class of lapping. You raising a hand and tapping. Might shit it in your locker and let them know with a winky face. Meet us at 3 o'clock if you wanna do something tragic. We'll shrinky dinky all of that yapping. It's automated. The gears of the rapper shredder want action and it'll happen. You know I'm popping the product of fucking poverty. I'm cool as AC and you niggas, you just wanna be. I slide on tracks like home plate, ride beats like road rage, got a crib like four states. I get a text like stay safe, text back, I miss that pussy, be home soon and I can't wait. I came from a dream, triple beam and some great tape. My sister went shopping, put my bags in the 8-8. Hello, Mr. Big Safe, the bank teller trying to get rank. I buy a hot dog stand if I'm trying to be frank. Just left the hospital making sure my nigga was straight and sent Bear a couple dollars till they give him a date. Tony! Hey! Out of Sight. E fate conto che queste sono le prime tre tracce del disco, giusto per dare un'idea, di quello che è stato fatto. E, diciamo, è un disco anche con pochi campioni, con pochi campioni, quasi tutto è stato suonato in maniera originale da LP e da molti altri musicisti associati, insomma, della cosa. Appunto, diciamo che il disco è stato anche positivamente recensito. Io, per dire, forse la recensione che mi è piaciuta di più, al di là di quella di Gelo, che mi ha detto sì, non mi ero neanche accorto dell'album di Eminem uscito quest'anno, quando è uscito Run the Jewels, l'ho pimpato a palla. Penso la recensione più bella che ho sentito è stata quella di Danno, che appunto segue molto il rap americano. Fa cavoli, Conway spacca, ma sembra che stia minacciando l'ascoltatore, perché dice sempre ti levo la collana, ti faccio una rapina. Invece i Run the Jewels hanno proprio quello spirito originale di party rap. Praticamente lui citava il fatto che a una certa barra dicono I rap and fuck, quindi sostanzialmente c'è, cioè, proprio è una cosa di puro intrattenimento, però c'è anche un messaggio. Detto ciò, abbiamo una bella coppia di singoli. A me piace molto il primo di questi due, che si chiama Holy Calama Fuck, perché sostanzialmente è una strumentale visionaria al solito a cui ci hanno abituato, però con una forte influenza dancehall, che è una cosa che sta recuperando di brutto negli ultimi anni, anche nel disco di Freddie Gibbs e Madlib, insomma c'è in quasi tutti, anche in quello di Busta Rhymes, vedi, c'è una bella influenza dancehall da qualche annetto a questa parte. Lo stanno recuperando in Italia Italia l'ha fatto Ency con Clash, che ha recuperato appunto la parte dancehall, la parte reggae, diciamo, nel disco. Magari non è tutto appunto il concept del disco, magari è una traccia a parte, però ci sta, cioè che effettivamente già a suo tempo erano un po' in anticipo i Dipset. Mi ricordo di una bellissima morda di Jewels, meravigliosa, meravigliosa. Guarda, dovremmo fare una puntata apposta nel 2022, la faremo. Guarda, giusto ieri ne ho sentita una di Jim Jones che campionava gli Evanescence. Oh, cazzo. Bring Me to Life, una roba assurda. Vabbè, allora Holy Calafak, quindi appunto con l'influenza del sole, poi c'è Goonies vs E.T., quindi effettivamente fantascienza anni 80 versus fantascienza anni 80, è un pezzo di critica verso la televisione e i mass media. Vi lanciamo in coppia. The death defier, the Mike Myers, murder rapper for hire, doer of drive fires, the bag, bag, clack, clack, let it loose, murder all witnesses and survive. That's a job completer, dependable contractor, the backhand whack rap slapper, Mr. Leather Bomber Taker, catch you getting off the escalator. Run it too smooth and don't trigger the underdigger. They have a team lacking. I would've ran me a Supreme racket. I would've took these lame Supreme jackets. Until you rob a hype beast, you ain't seen sadness. Clockwork, orange madness, left the scene laughing. Hey, we forever, ever. Hymetho, E. Michael, D. Render. The pyrotechnocrats, the old razzle dazzlers. The magic bean imbibers. The green giant of the rhyme contrivers. Supreme violence of the time describers. I'm the decider, you evil eyes. A pile driver provided for liars. The sleep deprived, the nick of time. Mercy killed the nine and prime. I killed a mood, I'm a rudeness for Guyver. A slapper, yapper from the acne to the tooth bone fiber. I'm liver, thought crime designer, criminal minder. And I'm a born and bred of Uso who chopped and screwed truth up. Think I got a case of the Mondays on fire! Ayo, one for mayhem, two for mischief. Now aim for the drones in the zoning district. Pin them, burg them, get them, burn them. Can't get the ghost up, no resistance. Pass the shit, Mike, I have to insist it. Reality sucks, thick house, that for wisdom. Lick the toe back like delicious. Time elf waved to me off in the distance. Hey, little guy, I'm just walking through from another timeline where monsters eat truth. Physicists say that though I get proof, the multiverse lives, I'm supposed to just lose. Blast by the tank, I drive, it's all fuel. Gotta try to stay cool, honey, buddy, don't move. Fuck shit, glows in the hearts of the brutes. You hate run the jewels, you don't love the truth. Miss the point, trying to act like shit's cool. Don't fucking tell Doom, your number's not due. Every other goddamn year, brand new. It's been 20 plus years, you think that's a clue? Maybe this guy kinda killed what he do. He's probably that dude, he left enough proof. Plenty of these goose disappeared. He's still the next big thing, gotta hurt, ooh, God. State that. All that four back, we don't play that. You won't beat, bruh, you just state that. And we state that, fry and bake that. One time in the big old South, lived a little chubby kid with a big old mouth. Lane riders gave him big old doubts. Now the same little boy in a big old house. Look at him now in the big old cars. And the same folk hate to pay big old mars. Hey, 1 minute let me be candid. You stand by the garbage can hand to hand. In that dumb trap shit, no proper plan. I see ignorant shit like geekers dance. And rappers rap about it like it's so romantic. But I still can't seem to escape the panic. PTSD streets did the damage. Kept me in hammock, laid back with cannons. Get me fucked up, it be calamity. I'ma come through and leave some damage. I damn somebody call Amber Lamb or ambulances. It's out of chances. Fuck that weak shit, you be bantering. You're coming cold and my flow's a cancerous. If I make another wish, I'll wish for a wish for you. For you. Hey. One, two. E-Gad, you heard of these lads. The myth, how we made a grip, never rode dick. Truly the Cadillac, I had to contract L's on a quick. Stick 'em up, slick, talking no tricks. It's the funniest shit. Finally the money up and print on the kid and the planet hits skids. Living in a valley of flames like I win. Skyline of blaze and a bomb rock pick. You don't want to acknowledge them wrong. Give a shit, never nigh. You can talk to me fine when I'm gone. Bad news bearing along with big claws. Trying to hold a whole lives and his paws and applause. Swear to goddamn the whole city I make a romance hard. We got scars for hearts, shit for eyes. Baby living in a one chance lot. So I stick to the art. Oh my god, I'm ultra mad. Cash it back. Running through dead zone. Hope it don't crash. Tennis on, motherfucker, bring it up fast. Be alone, I'm a home I can and then dash. Fuck y'all got another planet on stash. Far from the fact that the flames of our trash. That is not snow, it is ash. You gotta know the past, gotta rap. It's a love of all mad, but I promise. Baby, if I had another chance, I would give another chance to you. Ooh. If I make another wish, I'll wish for a wish for you. You. Woo. Put the brass on the magic lamps, damn near rub through. Hey. Spit wish at the wish at the wish at the wish, and the chances are that none are coming true. And then fake it. Life's a disguise, the truth is butt naked. Used to be a time I see it and I say it. Now I understand that woke folks are playing. Ain't no revolution, it's televised and digitized. You've been hypnotized and Twitterized by silly guys. Cue to the evening news, make sure you ill advised. Got you celebrating the generators of genocide. Any good deed is palm or punished, penalized. Rulers of the world, it's sliced it up like a dinner pie. Race in a nation told you to identify. Take false pride and warfare incentivized. Fuck that, me and my tribe, we on the ill advised. We accept the role of the villains cause we've been villainized. Stomp to the dirt of the earth, we still will arise. Terror don't let me alone as I soliloquize. This is life and ill, with a license to kill. This is nigga with an attitude of Beverly Hills. Heavy deal with a pocket full of treasures we build. Got a fire hot temper, find it hard to chill. I'm a lifetime member, fuck that fuck shit. Me and Jamie versus Shaw with a knife in the muscle. Bad tombstones beat, they were nothing to fuck with. Please say this shit again, Mike. Ain't nothing to fuck with. Hey, yo, nine to fuck with. Se vi ricorda qualcosa, vi ricordate bene, sono i Wu-Tang. Allora, questi erano appunto i singoli che abbiamo scelto, ne abbiamo altri due. Che cosa c'è da dire ancora su questo disco? Una cosa molto bella, molto importante anche da dire effettivamente su questo disco, che questo disco sarebbe, abbiamo detto, uscito il 3 di giugno, ma sarebbe dovuto uscire il 5 di giugno. Perché è stato anticipato? Perché si stavano organizzando le proteste contro la brutalità poliziesca scatenate dalla morte di George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery. E appunto quindi per questo i Run the Jewels hanno voluto anticipare l'uscita del disco per appunto non farlo il 5 di giugno, che era prevista una grossa manifestazione, delle grosse manifestazioni in tutti gli Stati Uniti, e appunto hanno poi rilasciato appunto una dichiarazione nel loro stile, quindi fanculo, perché aspettare, il mondo è infestato di merda, così c'è qualcosa di figo da spingere, da ascoltare, e speriamo che vi porti un po' di gioia e di allegria. State al sicuro e pieni di speranze, e grazie per aver dato a due amici la possibilità di essere sentiti, di fare ciò che amano. Quindi questo anche perché appunto loro erano sono schierati appunto con quello che è appunto questo movimento, appunto per quello che riguarda l'uguaglianza e Black Lives Matter, quindi l'importanza delle vite di chi è nero. E appunto abbiamo altri due pezzi, uno è un singolo di cui hanno fatto un ottimo lyric video, pazzacchione come al solito, featuring Pharrell Williams, non male, perché alla fine suona come un pezzo super club, però non come la clubata solita, però a me mi ha gasato, cioè tipo il singolo che a primo impatto mi ha gasato di più. Sì, sì, spacca tutto. Cioè sentendo il disco, perché poi gli altri due sono fuori, i primi due, Yankee and the Brave, sono proprio fuori concorso, diciamo, Just, ma proprio aperto in due, quindi ve lo lanciamo senza indugio. cause you can instigate a follow. Shit. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Yeah. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters. Been it time, I'm on mine, I be minding mine. Every time, on my grind, I'm just trying to shine. Make a dollar, government, they want a dozen dime. The petty kind might kill you cause they see you shine. I done had to have a talk with myself plenty times. Am I a hypocrite cause I know I did plenty crime. I get broke too many times, I might slang some pine. You believe corporations running marijuana. And your country getting ran by a casino owner. Ooh. Pedophile sponsor all these fucking racist bastards. And I told you once before that you should kill your master. Now that's the line that's probably gonna get my ass up. Master of these politics, you swear that you got options. Master of opinion, cause you vote with the white collar. The 13th Amendment says that slavery's abolished. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters. Confucius say, man, you better thug out, get the bag and the bug out. Try to run home, you might run your luck out. Just when your base is loaded, they'll roll a grenade in the dugout. Earth vote, not a mellow bunch. We got our thumbs in the air like hella bust. Look at who we done blessed with our trust. I don't think we'll be left for too much. Hand on my heart, on my mind, on my drugs. Got a vodka punch for your Atlas shrug. Love or not love, it's just that dumb. Lord, sweet Buddha, please make me numb. Rain bounce off walls like a Sinian Roomba. Just found out it's created stupid. Lit by the super moon or too lucid. Plus got shrooms in the blood, I'm zooming. BP, Richie, this is New York City. The X on the map with a pain key pinning. Just us ducks here shitting. My murderous choke. Go cops still earning a living. Funny how some say money don't matter. That's rich now, isn't it? Get it? Comedy. Try to sell packs. Supposed to get food, get killed. It's not an anomaly. Hey, it's just mastered money. Mastered economics, cause you took money. Yourself from squalor. Right. Mastered academics, cause your grace said you were scholar. Right. Mastered Instagram, cause you can instigate a follow. Yeah. Look at all these slave masters. Yeah, yeah. Let it sink in. 2020, run the map. Raw one cut in my hourglass. Don't watch it spill to the bottom half. You see the piece, now run it fast. On the tarmac, get a starter jack. C4 when I run it back. Like a track star, run a record lap. Nah, like when it's deal cash. Clean look, poor pugilist. A shooter's view is a brutal flick. Too rude for you rudiments. Who convinced you you can move against the crew in this? Coming up through the fence. Offshore at a port of prince. Overture left his fingerprints. On the hearts of the gate in the world of residence. How can we be the peace when the beast gonna reach for the worst? Tear on the flesh of the earth. Stay set from a deafening reckoning. Quick like the pace of a verse. So I'm questioning this quest for things. And the recipe for early death threatening. But the breath of me is weaponry for you. It's just money. Hey, yo. Abbiamo dimenticato di dire, bravo Gigi, che la strofa featuring non era solo di Pharrell, che appunto è il ritornello, ma c'è anche il mitico Zach della Rocha. A me non veniva, mi ero incartato. Allora, abbiamo ancora un singolo che si intitola The Ground Below. Devo dire, cioè, come dire, io non riesco a dire, cioè, più a fare una classifica di questi tre album. Gigi è molto più netto, poi ci dirà il suo responso, anzi datecelo in chat Telegram, diteci qual è il disco per voi più bello di questo 2020, anche non per forza quelli che vi stiamo proponendo noi. E allora io devo dire, non riesco a fare una classifica, questo disco l'ho ascoltato molto, devo dire che mi piace molto perché intanto è tutto un disco possibilmente party, cioè nel senso è comunque un disco che volendo puoi proporre anche alle serate, non è per forza per un pubblico hip hop, quindi a me piace molto il fatto di poter ampliare il pubblico che possa piacere non solo alle teste hip hop, perché è un disco sperimentale, perché è un disco miscellaneo, che poi alla fine la forza dell'hip hop è stato prendere e mettere tutto insieme sostanzialmente, quindi, e poi perché comunque se uno si va a leggere i testi sono scritti bene, cioè non rappano di stupidaggini, ecco. Quindi disco che vi consigliamo di ascoltare, dico la verità, spoiler, nel senso che abbiamo messo sei tracce più una che vi dobbiamo mandare, non ci sono poi moltissime altre tracce, nel senso che è un disco che dura 40 minuti, però abbiamo dovuto scegliere le più belle, le abbiamo messe quasi tutte per dire insomma il livello del disco. E allora il prossimo pezzo si chiama The Ground Below, Sostanzialmente i due fanno un classico racconto, insomma, di quello che loro vivono, e sostanzialmente rigrombilo vuol dire avere il sotto di sé il terreno, quindi tenere i piedi per terra contro le insidie della vita. RTJ, the God, the God killer, this Tokyo and I'm Godzilla, playing blackjack versus death gun on the car dealer, just bought a demon, I'm screaming about the car dealer, the last temptation of Mike, but I'm a God picker, tell me as a bob that the God don't need a job, and if I did, the oligarchs would be missing, murdered and robbed, this is Bonaparte and he paid with Tucson, and they went on a world conquest, tearing your Bonaparte, Michael remained murderous, but still virtuous, wait to kill the petty, you found out the church services, not a holy man, but a moral in my perverseness, so I support the sex workers unionizing their services, says you don't love me, ay, I'm guessing I'ma be okay, you said that you don't feel me now, I feel like I'ma live somehow, but love never meant much to me, love never meant much to me, ay, love never meant much to me, love never meant much. Born from the ether, I just appeared out of cloud. A reaper screaming, fuck the world. Like a dream, what's coming out like a reaper. A slap a dying child, he don't pronounce my name correct. Rules will gotta be rules, any exceptions, and I'm not a leader. Thinking the boss, and I get him, I fix the shit as iffy. But later, don't a whole white, they'll get to the crib and quickly. I watch my mouth when I finish watching y'all suck cock. Don't doubt you put an ounce of that evil on me, I'm flipping Ricky. I give an inch to you simps, I'll never forgive me. Not saying it's a conspiracy, but you're all against me. See a future with runner jewels, ain't the shit cancel my hit the killer trip, turn the time machine back around a century. Say that you don't love me, ayy, I'm guessing I'ma be okay. You say that you don't feel me now, I feel like I'ma live somehow. Love never meant much to me, love never meant much to me, love never meant much to me, uh-uh. Love never meant much, much, much, much, much, much, much. Every child, woman and man, opinion don't matter, stick to your plan. If they judge, still don't budge. Don't give an inch, don't give a nudge. Nudge. Life a bitch, leave you battered and bent. Lose a win, gotta hold up your chin. And I put it on Jamie and me. We just gave you inspiration for free. The money. E io Live and Direct from Underground Pusher per i dischi dell'anno. Il primo disco è stato passato, Run the Jewels numero 4. Passiamo al secondo, che devo dire su una scala è sicuramente il disco che ho ascoltato di più, semplicemente anche perché è uscito quando eravamo in pienissima quarantena. Stiamo parlando di Pray for Paris di Mr. Boom West Side Gun from Griselda Records. Quindi, come dicevo prima con Gigi, abbiamo aperto l'anno con Griselda Records con la prima puntata e lo chiudiamo con un album di Griselda Records. Quest'album è uscito il 17 d'aprile e si intitola Pray for Paris, che rimanda anche a una, insomma, una vecchio slogan che era successo appunto dopo degli attentati terroristici, diciamo che è un po' un seguito di quello che era Pray for Buffalo, sempre una canzone di West Side Gun. Perché si chiama così? Perché appunto West Side Gun ha presenziato alla Fashion Week parigina insieme a Virgil Abloh, o Abloh, non so come si dica, e sostanzialmente dice che Parigi doveva riprendersi dall'impatto con questo corpo celeste che si chiama West Side Gun. Quindi diciamo, vabbè, ego molto molto basso, e diciamo vi lanciamo il primo singolo che si intitola No Vacancy e vi raccontiamo qualcos'altro sull'album. I whipped it with the left, I whipped it with the right. Went 3/4 me, got the tank fight. Your shit stepped on, get your yay right. I blow your brains out in broad daylight. You ever make love to the pot? I ain't think so. You ever threw up from smelling too many kilos? The Migos, the Negos, we reload, the free throws, the more Jalapico, the Rico. Four story house, I got on V-Bro, the V-Lo. Rest in peace, Vino. Rest in peace, Kino. The Spigo, the Seagulls. April Fred, Seago. Slam you on your neck like Bruno San Martino. Welcome home, Tito. And proud of sipping Pino. My shooter shot. Five niggas in a row. We yell bingo. I'm Nino. Bulletproof Billy's parked outside. You with me? You need it? Nigga, hit me. Vacuum seal it, then you ship it. E questa era No Vacancy, giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Vi piace la vocina di Wessel Gunn? Fate conto che è sempre così. No, in realtà è un po' impostata, perché poi nelle interviste ha una voce più profonda, cioè meno odiosa, però vabbè. E allora, dicevamo, per chi ha sentito insomma la prima puntata di Griselda Records, in cui abbiamo parlato insomma di tante cose bellissime come Pistol Whipping, una specialità di Buffalo di cui anche Chiara si ricorda molto bene, e abbiamo parlato anche del fatto che appunto Wessel Gunn, per via dei suoi precedenti penali, non aveva il passaporto, quindi non poteva uscire proprio dagli Stati Uniti d'America. Con gennaio gli è stato appunto concesso il passaporto e si è subito recato in Europa, a Parigi, dove appunto ha presenziato a questa sfilata di moda organizzata da Off-White, di cui Virgil Abloh è appunto uno dei direttori, uno degli stilisti. Il sound, come dire, che ha accompagnato la sfilata è stato quello di Griselda Records, quindi deve essere stata una cosa fenomenale, cioè pensare che c'è della gente che sfila, uomini e donne che sfilano con dei capi insomma d'alta moda, e si sente sotto Wessel Gunn che grida eccetera eccetera eccetera eccetera, quindi non male. E che cosa è successo appunto che riguardo a questa sua esperienza, perché comunque Wessel Gunn ha delle passioni molto, come dire, mediatiche, come si potrebbe dire, da TV commerciale, come il wrestling, come le catenazze d'oro eccetera, poi però ha anche una passione incredibile per l'arte, infatti lui ha visitato insomma anche musei eccetera, e ha voluto condensare tutta questa sua esperienza della Fashion Week parigina in questo disco. E quindi diciamo questo è un po' il tema dell'album. Quindi senza por tempo in mezzo, lanciamo un'altra traccia che è un trio d'assi, cioè praticamente la Griselda Records in grande spolvero, Wessel Gunn featuring Benny the Butcher e Conway the Machine, una traccia dedicata a George Kondo, che appunto era uno stilista, un artista, ovviamente continuando la tradizione del blood slang, in cui la B inverte la C, perché appunto l'altra c'è intitolata George Bondo, anche se il personaggio si chiama George Kondo, così come è stato fatto nell'album Supreme Clientele, invece di Supreme Clientele, facendo un omaggio a Ghostface Killah. C'era un Hitler Wear Hermes, non mi ricordo se il 6, in cui c'era John Cena invece di John Cena, qua hanno fatto George Bondo. Vabbè, è un matto, non avevamo dubbi, però questo pezzo spacca tantissimo. Niggas came through, stabbed them on the way. Some niggas catch you at the sounds, 400 soups, bubble goose, to put up in a couple scoops, shop on double loop. Your body got hard, but not enough to shoot. We backing up trouble at the W. What's up with you? We hunting too. Still plotting and scheming on the cot, daydreaming. Get shot out the head, wrong prey demon. You ain't breathing, he ain't reeking. Lips moving, you ain't breathing. You start coughing up blood for insane reasons. You ever showed a 100? They spent it all in the same weekend. Razors leave your face leaking. Chill, let the rape creep in the brick, broken eight pieces. Double C's on the sway sneakers, I kick the bill shit. Who you be, where you broke from, I had the bill shit. Boom, boom, boom, boom. I had the bill shit. We was selling dog food and we was selling fish. Feds was building cases, they ain't never stick. Y'all had the triple wing dreams, we really measure bricks. Shit was moving fast as we cook it up, we sell it quick. Any beat I'm on, I gotta get my shit off. Your watch ain't cost 30 and up, take that shit off. I'm impacting the culture like Eric Bischoff. Big biscuit of that biscotti making my bitch call. They on Google, they wonder what I got rich off. They see me pulling off in that Dawn, the top lift off. The kid from May Street that used to whip saw and let his fifth fall. Now I'm the big boss. I dropped the bag, I had you picked off. My shooter don't speak, but you can tell it he dangerous. He just aimed steady to stainless. Drive-bys out of minivans, Chevys and Rangers. Rap nigga go to the club in my city tuck, every chain. Getting niggas clipped while I'm with celebrities hanging. I got two felonies, now they tell me I'm famous. My life is definitely changing. Rock Nation brunch, I'm with a R&B singer getting better acquainted. If thou still from Fly Guard, that's a sin. It ain't another rapper that's alive that can match my pen. Back again, Matt clapped the men, stacked a half of M. I was him before you ever heard me on a track with M. Look the back, machine, 3 years ago, when ain't nobody know me. Now I treat this rap shit just like somebody owe me. Think it's a game until I Patrick Kane, somebody homie. That's sliding through with a stick, shooting one by the goalie. I got nice, practice repeated, when rappers was decent. When you ain't leave the house unless your gap was matching your sneakers. It's y'all niggas rapping and tweeting, stacking and beefing. I get you whacked at the Venetian for blasphemous speaking. Watch band, snake skin. Gang at the door, let the apes in. 20K spin, that's how my day went. Bulletproof the floor and I feel safe in. Mirror smoke, great tent, and just to take trips to the bank in. Telly by the border, Glock on top of the covers. The room next door got double stacked on top of each other. Me and my old plug, aight, but we don't rock with each other. That was only business and we done did a lot for each other. Yeah, I fuck around and lead a party with my tool ringing. Drew's blinging, Taylor suit like a blues singer. You know my backboard like two fingers. Hustler, I'm the true meaning. Turn one and two like I'm Houdini. Yeah, this for the corners that we anointed. Opened up with a small group of soldiers that I appointed. I'm up due to all of the bullshit that I avoided. She suck, fuck, count up the money, but still annoying. It's Griselda, nigga. Yeah, it's Griselda. E questo è veramente, cioè, l'essenza più pura di questo sound. Io non mi stanco mai di riascoltare Pray for Paris. E che dire, la copertina di quest'album è stata proprio progettata, realizzata dallo stesso Virgil Abloh, insomma prima o poi lo scopriremo. Sostanzialmente riprende un famoso quadro di Caravaggio, abbastanza macabro devo dire, che è Davide con la testa di Golia, in cui si vede appunto Davide, il futuro re Davide, con la spada e la testa mozzata di Golia. Quindi insomma, già di per sé il quadro doveva aver fatto scalpore a suo tempo. E sostanzialmente Davide indossa al collo le catenone d'oro di Westside Gunn, ma proprio le sue, cioè non sono state, cioè sono state, come dire, photoshoppate, disegnate, non lo so, cioè sono proprio quelle che indossa. Tra l'altro Westside Gunn ne porta 3-4 gigantesche, diciamo, quella, ce n'è una anche che insomma testimonia l'affetto familiare, perché c'è la foto di Machine, Machine Gun, Machine Gun Black. Machine Gun Black, eccolo là, il fratello, il fratellone di Benny the Butcher, che faceva parte appunto del team, ma poi è deceduto, insomma, essendo Buffalo una città piuttosto violenta. Infatti anche Conway ne porta i segni, essendo sfregiato a vita. E quindi diciamo, questa è un po' la copertina, quindi David rivisitato, si potrebbe dire. E che c'è altro da dire? Che bellissima è l'intro, bisogna dire, in cui appunto, essendo appassionato d'arte, ha messo come intro del disco praticamente gli ultimi minuti dell'asta per il per un dipinto di Leonardo, se non mi ricordo male, che era il Gesù al di sopra del mondo, sostanzialmente, che è un pezzo d'arte che è stato venduto qualcosa per 400 milioni, quindi mica male, eh? Sostanzialmente è stata fatta da Christie's a Londra, e quindi è stata registrata. E quindi, cioè, come dire, l'intro è questa, cioè proprio per dire la fissazione di fare sempre una roba d'arte di Westside Gunn. Quindi diciamo abbiamo come dire il quadro della situazione, quindi da una traccia in tre a un'altra traccia in tre, di cui tra l'altro c'è un bellissimo video in bianco e nero, la prossima traccia che vi mandiamo, che è un po' come negli anni 90, è un video che racconta una storia, come al solito una storia criminosa. Si chiama Allah Send Me e si ricompone il trio Westside Gunn, Benny the Butcher, Conway the Machine. Allah took me here to be king. Bodies on the floor, pound. Look, hollow hit his head, I'ma peel it back. Hauling that shit, we brought the feeling back. Yo, all race fighting with the ceiling back. Addicted after my first pack, started dealing crack. You know I had dimes and pro seven, I wasn't feeling that. Drive-bys and DUIs, shooting, spilling yak. I'm in supreme drip, McQueen kicks, 30 bags, pull off in 3 whips when I leave. And yo, Burberry London tricks is covering the rushes. Blew the nigga head off and walked off like it's nothing. Hit him with the dummy, tried to cook it, but it wasn't. Brought the nigga home behind the wall, now he bloodin'. Yeah. We the last of the hard rappers. Feds ain't find work, but found the garbage full of soft rappers. Got 100,000 in car statues. My bitch body like Megan, her shit is all natural. Yo, leave you on the yard for 100 macros. Niggas know my flow sacred as 100 chapels. I built another statue up from the gravel. My crib need 2 more closets and another bathroom. That keep the accolades. I take the stacks, make back some things. Every 12 months, my address change. I get a rush just to clap the things. I took the umbrella out, double all the bullets had to ring. My nigga did 20 up north, he don't act the same. Take him to Rolling Loud, he trying to snatch a rapper chain. We open traps in the hood and we stack the change. Every day, 20,000 worth of traffic came. I miss the days of bricks, was only 19. I need 100 right now. Pop, let me do my thing. Stove hold me down. Allah sent me here to be king. Bodies on the floor, pound. Yo, e questo era Allah Send Me, West Side Gun, Pray for Paris, un disco che appunto ha comunque è stato lavorato in breve tempo, ma comunque una storia interessante anche perché il buon West Side Gun ha sofferto, ha sofferto in prima persona il Covid, perché durante la lavorazione dell'album lo ha contratto e quindi sostanzialmente giravano voci ma non si avevano accertamenti, poi appunto li ha confermati lui queste voci qui, anche perché ovviamente c'era anche la voce secondo cui West Side Gun fosse scomparso a causa del Covid, come Fred De Godson, che effettivamente molto giovane è scomparso e con cui insomma c'erano state anche delle collaborazioni appunto a questo livello, e diciamo appunto quindi anche vissuto questa esperienza qui, che ha comunque in un certo senso cercato di trasmettere durante appunto Pray for Paris, quindi diciamo anche qui un disco classico disco Griselda, quindi abbastanza corto, però appunto ha il suo perché. Io volevo salutare il mio amico Borti, che appunto mi ha mandato un messaggino dicendomi: per me il disco dell'anno è Royce the 5'9", Make Money Like War, ma soprattutto è in hype, come un po' penso chiunque segue il rap italiano, per il disco del 2021 che uscirà l'8 di gennaio, ed è il disco di Next Cassel, di cui tra l'altro è già uscito un singolo a Radio 105, andatevelo a recuperare. Se è come il singolo, l'album penso che diventa già il mio disco preferito del 2021 a mani basse. Quindi bella Borti, noi abbiamo 2 singoli che vi mandiamo in coppia. Uno si intitola $500 Sounds, featuring Rock Marciano e Freddie Gibbs, quindi una bella coppia, diciamo, quindi Freddie Gibbs, un altro che sui beat lenti, insomma, si accava benino. Rock Marciano è un po' il padrino di tutta la wave Griselda, insomma, le prime apparizioni in West Side Gun le ha fatte su robe di Rock Marciano, quindi è il pioniere del rap senza batteria. Tra l'altro, in questa meravigliosa cornice di cocainomani, sostanzialmente, Freddie Gibbs disse il suo manager con cui appunto aveva frequenti, il suo ex manager con cui aveva frequenti scazzi per via di questa cosa qui. Quindi diciamo, il primo è 500 ounces e poi la seconda è 327, cioè 327 featuring Billy Esco e Tyler the Creator, dedicata anche qui alla Fashion Week parigina, in quanto è stata presentata la New Balance modello 327, a cui è dedicata la canzone. Ve le mandiamo in coppia. But how you look a nigga mom in the face when you shot a baby? I got skeletons in my closet right next to Balenciaga. Call me Fred DiBiase, garage is $1 million, my nigga. Yeah, it's just the way that God be planning shit. I drop a load and take a load off, that's load management. And last lap I dropped the hoe off and bagged the Spanish bitch. Put out the dick, she snort the coke off. I'm living lavishly, yeah, okay. Bitch, nigga, you know what it is, baby. Yeah. Tell you from the door, tell you from the get go. You ain't gotta go home, but you gotta go. Ain't no L's on my jacket. The Mac 11 hit your melody cracking. Ain't no pass for that in that medicine cabinet. No, can't mess with whatever's in that gelatin tablet. 10 metal fragments to flip your skeleton backwards. All you seen after that was blackness. This ain't no backpack shit. These slacks half a brick. Bitch, you need these back a bit. The trench has cactus pants. Deceased in the Benz, Lenny Kravitz scan. Go get your cabbage split. It don't matter what establishment we in. Shit the fuck out. Always get the biggest chicken wing. You won't get to eat on one on your ring. At least 100 G's, the links underneath the mink. Yellow Bugatti look like a bumblebee. Compressor on the front to muffle the heat. The submachine gun and come with the beam. Amongst other things, the sun's seen. You run with me, you need sunscreen cream. See him covered in bling. Bling, motherfucker, ain't no shade even under the trees. The monkey swing. The murder want money green. I'm running the company like a drug ring. Living comfortably off a gut instinct that fell upon me once I was done with the streets. You still skeeting puppy pee. Let me bring you up to speed. You get your wig spun like a tumbleweed in Belize. I get on the beat and bleed. Sacrifice a living being to please deities. Then with VVs flood the big Nefertiti piece. Hey, yo, I had the Rusty 45, I had the Mag 2. You hang with a rat, you a rat too. We used to chipping on the big, back it up. That's my rib, you take a shift, I take a shift. If feds come, raise my kids, take my phone. Keep the links going, never bust a brick open. 12-12 bags was bagging, flagging Rico. It's over, pots, hand me some ice. He left the fridge open, I'm trying to see my kids grow up. Your niggas ribs showing, God made light. Don't drink a bond on my air like day and night. Day and night. My young niggas, you take your life. Eastside niggas, you never change. I swear Paris will be prayed for. Pray for. I'm released off white to the ankles. I'm in them places that you can't go. Don't see me go in the same road. I swear Paris will be prayed for. I need Casablanca by the caseload. Bitches in the mangoes. I'm a model now, baby, got the face for it. Yo, I rock no dashes on the runway in my coke fashion. Anybody move, I'm toe tagging. My 327s was blessings, leather Vuitton vests. Keep a loaded firearm and Mercedes arm vests. Lost stressing. 22 with grades, 25 left in the cage. I told him, hold your head, it's worse in the grave. I threw coke in the pot, washed it, bloom. Residue and consumed. He started waving, had a light and dope spoon. A nigga try to kill you for your recipe. My shooting nasal drip flowing heavenly. Ducking my third felony, taking shine. 2 for 5 million miles, running from suit and ties. You say you the flyest, then who am I? Balenciaga with the hell. Lemonade a popular drink still. With long jeans, jacket rockin', so be real. Overpass, I'm too exquisite. On the dance floor, club trying to finger fuck on every visit. Some niggas will never risk it. Hopping in BMs and proud of moccasin shit. They never had a pot to piss in. Body Porsche on Cavalli dishes. On my hollin' in the dry Porsche wildin'. My loafers crocodile styling. I be having greater visions. You can tell by the way I whip it. You getting money, then the haters with it. It ain't dry, told them, wait a minute. Praise Pope for the way I did it. I swear Paris will be prayed for. I'm released off white to the ankles. I'm in them places that you can't go. Don C, Nego in the same bro. I swear Paris will be prayed for. I need Casablanca by the caseline. Silks with the oranges and the mangoes. I'm a model now, baby, got the face for it. I swear Paris will be prayed for. I'm from an era of hard knocks and quiet stones. Rap songs about crack rocks and firearms in the stash spot on some money mission. Adjust the AC, conceal the biscuit. It's your life, you can choose to risk it if you wanna. These niggas don't want smoke, they want some marijuana. I used to get kicked out of class just for my aroma. I went to school high, forgot to pick up my diploma. It's way back when we used to cipher Arizonas. Now I'm in that Maybach, I'm with Puff and Hova. We been in corners in the six deuce. Talk about last night's $10,000 bottles of Patchou. Sip it like it's juice, homie. How could I lose the shit that these fools would do to be in my shoes? I'm done playing by rules. Learn from OGs, I'm retiring the jewels. Everything is plain Jane, different day, the same day. I mean, as usual. Everything that's new to you be the type of shit I'm used to. I could give a fuck about the hated shit I'm used to. If it's fuck me, then all the feelings is mutual. I swear Paris will be prayed for. I'm released off right to the ankles. I'm in the places that you can't go. Don't see me go in the same road. Yo, e questo era 327. Questo disco non abbiamo detto, ma al contrario, ad esempio, di Run the Jewels 4, che è stato fatto quasi solo dalle manine di LP con insomma delle incursioni di altri produttori, questo invece è stato fatto a dozzine di mani, perché sostanzialmente i produttori sono diversi. Ovviamente c'è il fidato Daringer, c'è Beat Butcher, c'è Camouflage Monk, c'è DJ Premier, c'è anche Tyler the Creator, che ha prodotto Party with Pop Smoke, che appunto è un omaggio allo scomparso Pop Smoke, con cui appunto West Side Gun si era, come dire, era entrato in contatto proprio a Parigi, proprio prima della scomparsa dello stesso Pop Smoke. Quindi effettivamente era un pezzo d'omaggio, anche perché appunto Pop Smoke era di New York, era uno dei pochi, come dire, che si diceva che avesse, come dire, capito effettivamente che cosa fosse effettivamente la radice dell'hip hop, dicevano, delle nuove generazioni, perché appunto era un classe 98, se non mi ricordo male, se non ancora più giovane, e quindi diciamo è stato un tributo doveroso. Insomma, più o meno tutta la scena l'ha tributato. 50 Cent si è, come dire, proposto di fare il direttore esecutivo della cosa, non so insomma se fosse solo ammirazione o voglia di fare il cash, però dai, 50 è bravo in queste cose qua, e diciamo West Side Gun è un po' comunque un nuovo 50 Cent, si può dirlo tranquillamente. Però mi piacciono di più i dischi di West Side Gun. A te, Gigi? Sì, West Side Gun di gran lunga. Ti piace di più le sporche? Sì, no, 50 Cent mi ha sempre fatto cagare, sinceramente. Diciamo, era roba club, diciamo, magari se iniziasse adesso 50 Cent farebbe robe tipo Griselda, più facilmente farebbe delle trappate reggaeton, però... Sì, esatto, cioè... Vabbè, allora, abbiamo ancora qualche cosina. C'è un bel pezzo che si intitola French Toast featuring Joyce, Wright and Whale, che vi lanciamo. Bonjour. I can tell that you mean that. You mean that. You can put your legs up. You can choke me while I eat that. While I eat that. Hold hands by the Louvre Eiffel Tower in the evening. We can laugh over French toast, but y'all don't call it French toast. French toast. Don't worry about me, bitch. I've been dope. Roses in my intro. Big V on you, that's Valentino. show. Rap show. Used to sell crack out the back door. Back door. But now I'm out here in Paris crushing on you, bitch. I'm out here in Paris just crushing on you, bitch. I'm out here in Paris just crushing on you, bitch. I'm out here in Paris just crushing on you, bitch. For love, yeah, okay. I'm sending shots, motherfucker, drink up. Your bars tender like umbrella and cup. Niggas never confront me, but on the humble, I can never hit ya. Cause you a broad, you just domestic as fuck. What's up? Yeah. Nobody gonna miss ya. What's up with the big talk? Yeah. Never gonna switch ya. They all Eric Bischoff. Yeah. My team special like the 11. Let's kick this shit off. I'm Steve Tasker in Buffalo running. I'ma get ya. I'm in Paris. Yeah, I'm in Paris. Never been before. Boo. Don't embarrass yourself. I'm in love with my queens, I make a scene with your bitch. My chain look like it's Rue de Paris, I swear again. I deserve all this money, I deserve every bitch. And we both pray for Paris, but mine ain't Paris kicks. Mine work for Rihanna, mine fancy as shit. Mine working for Virgil, like DiBiase but Flip. I just happen to rap, that dancing ain't one of my licks. I'm on France, we're gone, the fragrance of brick. I spray guns that blam, my ray guns from Dan. My SBs is old, your SBs is trash. And my bees are old, but my wings is fresh. Brought out machine and butcher, boy, we gon' need the bread. All my queens is dope, all my freaks still bad. Somehow I leave them but open now like I'm out from here in Paris, crushing on you, bitch. I'm out here in Paris, just crushing on you, bitch. I'm out here in Paris, just crushing on you, bitch. I'm out here. Just crushing on you, bitch. Bitch. You. Ooh, I got a crush on you. Crushing on you. Crushing on you. Crushing on you. Hey, yo. E in questo pezzo, diciamo, West Side Gun si diletta anche nel canto, che penso sia il suo hobby preferito. Gran cantante, devo dire. Gran cantante, gran cantante. Nel disco di prima c'era una produzione di DJ Premier, non poteva mancare primo anche in quest'album, in un pezzo che è un grande classico, in quanto prodotto da DJ Premier, è un grande classico di West Side Gun. Cioè, si intitola Shawn Michaels vs. Ric Flair. Shawn vs. Flair, che poi è un match di wrestling realmente avvenuto. Ricordiamo appunto che West Side Gun è un grande appassionato di wrestling e tantissime sue canzoni o dischi sono dedicati ai wrestlers. Come dire, al solito c'è appunto una bella produzione di Premier molto classica che campiona un altro grande classico che è I for an Eye dei Mobb Deep. E però diciamo appunto la cosa come dire particolare del pezzo, ecco, che insomma è quello che l'ha fatto saltare un po' alle orecchie di tutti, e che appunto nel ritornello lui appunto fa un salto, il nostro fa un salto nel passato dicendo: hai mai mangiato hamburger il mercoledì e hai mai mangiato pollo il giovedì? Proprio indicando i giorni. Perché ha detto questa cosa qui? Perché sostanzialmente in molte delle carceri degli Stati Uniti, West Gun è stato detenuto più volte, c'è questo menù, il mercoledì hamburger e il giovedì pollo, quindi diciamo sostanzialmente fa una similitudine tra la vita di prima e la vita di adesso. E questo è Shawn vs. Flair. Another war story from a thirsty young hustler. Once the pen hits the pad, it's danger. It's danger. Another war story from a thirsty young hustler. Once the pen hits the pad, it's danger. Hey yo, you ever ate burgers on Wednesday? You ever ate chicken on Thursday? Fly got the illest nigga purse. per se. Pardon my motherfucking word, yo. Left out that fat shell, did the impossible, incomparable. 100 drumsticks and silences came optional. Shit's unstoppable, they ducking and dodging. Topless Corvette parked in front of the Majid. Earn my respect, talk sink. When I whipped it, ain't locked it. Still look gorgeous face in the stock. Yeah, yo, the Mary Comic Collector, the goggles on the Hebrews, Panetta, the Mona Lisa on the off-white sweater. You too broke to step before the Christmas. You throwing roses at the 42s. Fuck with me, get bucked. Yo, paparazzi's cameras flashing, looking devilish. The red Ashton, don't try me. My ball blasting, my heart cold, but my neck feel like aspen. And yo, the X doors lifting, boo. Pay attention, know some ox pray 5 times a day. You ain't Christian. All that shit dancing on his neck, you can't miss him. Skeleton wrist, my deal is great, y'all shifting. And yo, you ever ate burgers on Wednesday? You ever ate chicken on Thursday? Fly got the illest nigga per se. Pardon my motherfucker wordplay. Another war story from a thirsty young hustler. Another war story from a thirsty young hustler. Hey yo, Sean vs Flair. Un pezzo bellissimo. Penso si che spacca, bello fico. Penso che sia la produzione di Premiere più breve che ho mai sentito. Diciamo, il nostro Wesley Gunn si può permettere anche di far durare poco un beat di Premiere. Gente per cui dare, cioè, c'è gente per cui. Mannaggia, mi sono incartato un'altra volta. E non sto facendo niente. È la mascherina che non fa arrivare l'ossigeno al cervello. Sostanzialmente, c'è gente che per un beat di Premiere darebbe un braccio, probabilmente. Invece, vedi Wesley Gunn come è sciolto. Beh, bisogna dire che ai tempi d'oro, ai tempi delle produzioni per Biggie, un beat di Premiere costava quanto un bilocale a Manhattan. Cioè, tipo, cos'è, tipo $60,000, forse di più. Porca zazza. Si è fatto qualche danno, ha fatto bene, tanto mica li pagavano i rapper, li pagavano le etichette dei rapper, quindi ancora meglio. E quindi che stavano dicendo? Allora, abbiamo un ultimo pezzo meraviglioso, devo dire, proprio in stile Western Gun, quindi senza batteria. Questo pezzo si chiama Le Joliba, che è un ristorante presente a Parigi che è specializzato in cucina senegalese, in cucina dell'Africa dell'Ovest, praticamente nella lingua Bambara, che è la lingua del Mali. Le Joliba vorrebbe dire il fiume, che appunto riguarda appunto un fiume appunto presente in Mali, quindi Joliba vorrebbe dire fiume. E sostanzialmente in questo flusso di coscienza meraviglioso, il nostro parla della sua vita di strada, del vendere appunto la bamba, del fatto che ne vorrebbe offrire a George Condo, che però appunto è scomparso. E però c'è un featuring d'eccezione, perché c'è Cartier Williams, che è stato partecipe anche lui della Fashion Week. Cartier Williams non è un producer, non è un rapper, non è un beatboxer, non è un DJ, non è un writer, non è un b-boy, è un ballerino di tip-tap che balla il tip-tap talmente veloce che fa sembrare il suo ballare una percussione. E penso che sia una delle prime tracce in cui nell'audio c'è della danza, quindi questo mattacchione come dire, l'ha voluto fare lui per primo. Grande, Le Joliba. Staring at a George condo, I can get him home. Get out of line, I'ma up this pole. Cop 2020 rolls, I ain't even drove. The shit was cheaper in the 8, we had to hit the road. The way my fucking neck look, they think I sold my soul. Front row, Virgil will blow show. This nigga goat. Had a nigga tap dancing on the blow. So high, questo era Dancing on the Blow, le Jolie Bar. Questo è un pezzo pazzesco che insomma racchiude un po', penso, quella che sia la poetica di Wesley Gunn. Ti piaceva questo pezzo, Gigi? Non molto. Non molto, lo sapevo. Per fortuna stiamo arrivando al pezzo forte, quindi al disco che preferisci tu. Spoiler. Abbiamo spoilerato il disco che preferisce Gigi. È l'ultimo di questo trio. Per fortuna sono arrivati in tempi diversi. Questo disco si intitola Extinction Level Event 2. The Wrath of God, è uscito il 30 d'ottobre, ci ha fatto un po' il regalo di compleanno Gigi, vedi, sì, che bravo, esatto. vedi che bravo, entrambi siamo degli scorpioni, e ci ha fatto questo regalone il nostro amico Busta Rhymes, che è uscito con il seguito di uno dei dischi più potenti degli anni 90, che si intitolava Extinction Level Event, che tra l'altro aveva una copertina della Madonna, mi sembra che c'era una bomba nucleare su New York, una cosa così, vero? Sì, tra l'altro tu mi hai regalato il Natale scorso quel vinile lì. No, mi sa che l'ho preso in primavera. Cioè, Natale, cioè io non ho fatto regali, credo. Quindi, no, sono quasi certo che tu mi abbia regalato quel vinile. Mi ricordo di avertelo regalato, ma probabilmente l'ho preso in primavera con le, con il mio carico di vinili da Original Vinyl Pusher. E, vabbè, diciamo invece questa copertina qua. Appunto, diciamo, non vuole omaggiare la prima, che comunque era un fotomontaggio che anticipava, diciamo, la caduta delle Twin Tower, perché effettivamente c'erano ancora le Twin Tower in questa copertina. Il nostro è ritratto in versione fumettistica, vestito anche elegante, cioè poi è rimasto lo scheletro con la mascherina. La comandi la mascherina, ci mancherebbe altro. Bisognerebbe chiedere effettivamente che cosa voglia dire. Diciamo, il nostro caro Busta Rhymes sta facendo una valangata di interviste, prima o poi spunterà anche il significato della cover. Io direi che prima di parlare accuratamente del disco, lanciamo subito un singolone, Strap Yourself Down. I got something real heavy to lay on you, man. Now that's what I need. Oh. Talk shit if it's high talk, to the top, Tibbity power walk. Side talk serious, top floor bitch with a top fleet. Feast over niggas with sharp teeth. Full time, get it? Za, go and get wata. La, la. Water drop drip, see how we slide. Big broad titty, they droop. Seat the bitch all in the coupe. Jealous niggas, you don't want me to shoot. Drop it all. Bang, bing, bing, bang, bang. Think you're listening to the wrong song? Bing, bang, bow. Full time niggas, eh? Who, bow. Bang niggas till they all don't sing. What you gonna do now? Do now. We don't allow foes here now. Watch little nigga, we bow. The goal set it. Beat niggas down to the ground. Make them regret it. And get it? We can never do wrong. I said it. What the? Fuck around. Mm-hmm. Wanna play a little game of death? What the? Voodoo. Take it up. What the? Cuckoo. I'll kick you in your gut and be making you wanna doodle. Wanna doodle. Take a man in the Shangri-La. Shorty that came to Dick Strangler. Black Maybach Dracula. And everything I do is spectacular. One, two. For God's sake, strap yourselves down. That raw, biggity blah, biggity blah, blah, blah, blah. Nigga, you fraud, give me you bride, bride. Bitch, give me the keys to cities. Let me dig deep, feeling like Slick Ricky D's. Hey, it's the guy giving you raw. Shit got you smashing your truck, crashing your car. Aw, shit, homie, you see, and now you don't say, don't say. I've been killing this bitch, homie, we don't play. Laying shit down, get on the floor. Yeah, niggas dig out, we digging down to the car. Earned the right to passes, is why I'm giving you all. I'm the flash, you ever saw. Bad boy, giving you heat, feeding the street. And fuck niggas up, little bitch, you think it's sweet? Confused niggas, bug on the shit I do to a beat. And bruise niggas, watch how I cruise niggas to sleep. And use niggas, watch how they knock it all in their jeep. A few paparazzi won't catch me all when I creep. I move kamikaze when paparazzi is deep. Include chemo sabis, you carbon copies is weak. Aye. Aye. While I give you a trick or treat, treat, you weak motherfuckers, I got you under my feet. See, you sleep on a nigga, that's when you niggas are reap. Anything you saw, that's when niggas know shit is deep. Aye. And break your back and split your spleen. But the angry police officers, when they step on the scene, they get even more angry when I be counting the screen. Till I got these niggas shouting the way I'm out in the street. Così, leggero e col vestito migliore, come diceva Ligabue, proprio così, tranquillo, tranquillissimo, il nostro amico Busta Rhymes è tornato con il suo decimo album in studio da solista, quindi si escludono Flipmode Squad, The Conglomerate, insomma, e tantissimi poi altri singoli in cui è stato guest star, di cui appunto, come magari ad esempio vi ricordate Coco, che era con appunto l'altro il suo Pusher, Roti Genesis, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, oppure quel super pezzo in cui c'era Lil Wayne, non mi ricordo come si chiama, Get Down forse si chiama, sì. una roba così, ora Get Low, vabbè, insomma, quindi la produzione di Busta Rhymes è sempre stata molto vasta, è uscito con questo super discone, anche questo è un disco sperimentale alla maniera di Busta Rhymes, quindi con una costruzione molto particolare nel rap, con anche appunto una maniera particolare di porsi, diverse tracce sono come dire, come se fossero due in una, perché poi cambia il beat, insomma, ci sono tante pazzerie, capolavoro del nostro. Io, tra l'altro, come dire, abbiamo un po', come dire, dato la caratteristica di ognuno, no? Run the Jewels, perché appunto è un disco trasversale con una bella dose di elettronica, però cioè, sapientemente mescolata all'hip hop, quindi è per questo che effettivamente risulta un disco party, mentre invece insomma, Pray for Paris di sicuro è un disco party, è proprio un disco Griselda, quindi se vi piacciono le barre è appunto un disco classico, un disco si potrebbe dire quasi artistico, per l'accezione che ha appunto un disco grimy, allora c'è Pray for Paris. Questo è un disco sperimentale al massimo, con dei pezzi party, con dei pezzi fuori di sé, proprio un disco black music, si potrebbe dire, cazzo, perché comunque l'influenza è quella, e Busta Rhymes è uno che proprio quando si mette giù fa tantissima roba. Una volta ho visto un'intervista a Radig, che è appunto un ex componente della Flipmode Squad, che era la prima crew di Busta Rhymes, che ovviamente ruotava intorno a una figura gigantesca in tutti i sensi, perché comunque non è proprio un piccoletto, di Busta Rhymes. Sostanzialmente diceva: Busta Rhymes mi ha insegnato tantissimo, è uno che ha sempre come dire, svolto il suo lavoro con una professionalità maniacale, un grande artista, e lo saluto, ma sono sicuro che in questo momento sarà in studio, come probabilmente fa buona parte del suo tempo. Busta Rhymes ha prodotto una marea di tracce, infatti questo disco è anche lunghino per essere un disco del 2020, però tutte le tracce spaccano, quindi diciamo questo è un po' una premessa, continuiamo a raccontarvelo, ma prima vi lanciamo il singolo che ci ha aperto in due, giorno 30, Czar. There ain't no place in the world where Busta Rhymes ain't the baddest motherfucker. You understand? Do you understand who this man is? Do you understand how hard he brings it? Nobody's following this motherfucker. Nobody. Look, bitch, it's my city. You get smacked silly. Thought it was yours, Jimmy. Back to shut shit down. Nigga, fuck with me. Jail music for riots. Catch the smoke 50. Fuck the place up till I turn 160. Now I'm here to switch it up. Motherfucking lift it up. Get your niggas drunk till you lay in your bed and piss it up. Now I'm back with the coke to make you all sniff it up. And skirt, skirt in the race. Watch me Tokyo drift it up. Take this loss. All day sauce. Take cheese till I frown and we spit it up. Got us running through it. Got a 100 stupid. Now we about to lose it. Y'all don't wanna do it. Watch the way we mix it up. Peep the way we fix it up. And then make sure they get on her knees and how she licks it up. Red carpet swag on a nigga when they flicks it up. Rich put up prices on a coke, you see the bricks is up. So far, shorty's throw they bra. And I need a light of the light. The perfect cigar. Brand new jet, brand new car, leader of the new shit, brand new czar. Light switch off, Cuban link cross, the shine bright of the evening, diamonds crisscross. If you ain't out here to find it, time to get lost. In case your niggas ain't know, bitch, I get busy like a silverback grizzly. Roll up some more sticky, every hood to every block, brought them all with me. So much smoke, they nicknaming the flow chimney. Bag full of Franks, every federal known crispy. The great bus rhymes, you with a few dimes, just spoke your name up, you gon' live a long time. So when we in this bitch, most you niggas get no shine. Invalid niggas, stop begging for cosigns. Now this be the doses to have them black and make them do shit. Been in their backup until it fucking break in two. Better call a medic. You know my whole aesthetic. Energy kinetic. You better clear the exit. Light switch on. Functional. Kill everyone in this bitch gone. Launch grenade bombs. Spit that venom to break up your legs and both arms. Volcanic eruption. We tell them remain calm. Heavy metal like Metallica. Now witness the massacre. Somebody should have told them niggas they shouldn't come after you. Feed the planet to cook up international traffickers. Now pull up with the sprinters, cause all of my bitches passengers. So far, shorty's throw they bra. And I need a light of the light, the perfect cigar. Brand new jet, jet. Brand new car. Leader of the new shit, brand new czar. Light switch off. Oh. Cioè, questo era il singolo attesissimo il giorno del lancio dell'album. Cioè, in realtà era già uscito un altro singolo, però era rimasto, come dire, un po' in sospeso. Cioè, proprio il giorno del lancio dell'album è uscito questo singolo, che cioè, già solo quello dici ci basta. Tra l'altro, insomma, un video in stile Busta Rhymes, quindi sobrio, in cui sostanzialmente il nostro appare con una specie di divinità, una specie di, pare che sia tratto dall'epopea di Gilgamesh, un antico poema babilonese. Sostanzialmente Busta Rhymes sorge dalle acque per arrivare a terra, nuota attaccato alla pinna di uno squalo. Cioè, solo questo vale, cioè, più o meno tutto un anno di video hip hop. Cioè, penso l'epicità della scena è lievemente superiore alla scena in cui Action Bronson dà gli asparagi ai delfini che saltano proprio a prendere gli asparagi dalla sua mano. Cioè, siamo su questo livello di epicità. E vabbè, diciamo, il video è tutto una, immagino, fantasticheria della mente di Busta Rhymes, in cui appaiono anche gli M.O.P. che sembrano i Re Magi sostanzialmente. E quindi, diciamo, una versione, c'è anche una, penso, una citazione a Indiana Jones e il Tempo Maledetto, in cui praticamente arriva il nemico di Busta Rhymes e Busta Rhymes con la sola forza dello sguardo gli strappa il cuore dal petto. Oh. Molto, molto, molto, sì, molto sobrio, giustamente, Chiara, molto sobrio, molto, molto potente come sound. Allora, diciamo, questo è il disco numero 10 della carriera di Busta Rhymes ed è il primo dopo 8 anni, perché l'ultimo disco era nel 2012, che appunto era uscito Years of the Dragon. Giustamente dici, finisce il mondo, non poteva non esserci un disco di Busta Rhymes, nel 2020 siamo ancora qui. Lui ha pensato bene di fare uscire The Conglomerate e appunto Heroes of the Dragon direttamente lo stesso anno. È un disco ricco, ricchissimo di featuring, quindi come M.O.P., ma c'è anche Kendrick Lamar, Mariah Carey, Anderson .Paak, insomma moltissimi altri. E appunto ha avuto generalmente delle recensioni positive. Strano, stranissimo. Stranissimo. E anche a quanto pare il disco di questi che ha venduto meglio, perché nella prima settimana ha fatto qualcosa come 38.000 copie. Attenzione, equivalenti però. Cioè, nel senso, non, se fossero stati album sarebbero state 17.000 copie. Gli stream invece sono stati un po' di più, tipo 28 milioni di stream. E quindi è venuta fuori una somma così, cioè tra fisico e digitale, l'equivalente di 38.000 copie in album. Mila copie o milioni? No, 38.000 copie la prima settimana. Cioè, diciamo, proprio come dire, la prima settimana, vabbè, un po' in tutte le uscite, ma poi negli States la contano particolarmente. Quindi, diciamo, è un disco che è stato apprezzato molto, molto, molto favorevolmente. Appunto, diciamo, ricco di featuring. E appunto, parlando di featuring, non possiamo non proporvi Out of My Mind, tra l'altro con un veramente un gruppo classico, perché featuring i Bell Biv DeVoe, che sono un gruppo R&B che è attivo dal 1989 e che è stato soprattutto attivo nei primi anni 90, e sostanzialmente hanno fatto questa combo, tra l'altro molto ben riuscita, anche parecchio pari. Anche di questo è uscito un video. E buon Busta Rhymes si destreggia con tre tipi di giacca di pelliccia di colori diversi. Una è appunto, ricorda la giacca di Babbo Natale, quindi con la pelliccia argento, ed è di color rosso, però non ha fatto aria di un babbo. È bravo il nostro Busta Rhymes. Salutiamo anche il nostro amico Yax Flux. Cos'è che scrive? Io sono lontano. Ci dice puntatone Regaz, e poi ci dice che secondo lui la foto di Busta Rhymes si mangia vivo chiunque altro a livello di rap, ma forse come disco in generale vincono Run the Jewels. Sì, mi sa che vincono loro, però diciamo appunto negli States a quanto pare Basta, vabbè, Basta è un'istituzione, quindi che dire se non che vi mandiamo Out of My Mind. What? Hey! What? It's already starting to feel like it's that time again. Okay. Now I want everybody to do what they know they're supposed to do. Cause y'all know who in this bitch. The conglomerate. Front and center. Come on. Look ahead, see they climbing in trick. Back in the spot to make them wild again, bitch. It's Bust Rhymes, a goddamn snitch. The cannon about to blow. Let the niggas know. Quick shit. Oh, God, no. The nigga gon' flip. Spit, smash, cut. A nigga face kick. A hole on top. Your fucking head bang. Cause I'm in love with body and shit like newlywed. Damn. Now is the time, remember, he can say, ho, ho. Hands up because I say, so, yo. Turn full, my niggas, let's go. Now don't you see how we got them? We here to get dough. Oh, shit. You better get with us. Straight, black, out shit. My niggas, hey, look, hey, you know the way we do it. The conglomerate. It's coming and we about to run through it. It's driving me out of my mind. That's why it's hard for me to find. Can't get it out of my head. Watch the way we kill them. You gotta love it. Don't this hit make my niggas wanna wait. One sec, they told me what's good. Bouncing on the beat like the way your niggas should. Look, now I spit, just leaving over stamp. Yeah. And then be spitting the shit that other niggas can't. No, it's never gonna end. I bounce right back and shit on them again. Sit back and watch other niggas bleed. Yeah. And then I come to give y'all the shit you need right here. Oh. You know, I come and I shit down. Me don't care, I know not them frown. Dreddy chop to be wild and shining my crown. And we instate the boom bap and redefine sound. Drown. Trash niggas who sit back thinking they could run. I deliver the street crack, get you what you want. Y'all know what's up, bitch. Rest out. Let me chill for a minute. Bring the chorus back. Let go. It's driving me out of my mind. That's why it's hard for me to find. Can't get it out of my head. Watch the way we kill them. You gotta love it. Don't this hit make my niggas wanna hop and I skip every time that I drop that. A lot of you trash and you need to stop that now. Tell me how can you not do the shit that to make the game proud? Tuck, drop and then roll, the fire gon' blaze in here. Now do I make myself clear? Watch beat the way that we beat them up till I'm done. Make them run, bounce, bitch, run. You know that everything good. Crowd in this bitch need some elbow room. We bout to heat it up some more. I hope all of my niggas just keep it up. Beat them up. I will eat your food until I leave. Or until a nigga can't breathe. We run shit, control the block and all of that. Now I'm tired of talking, bring the chorus back. Contact. It's driving me out of my mind. That's why it's hard for me to find. Can't get it out of my mind. E questo era Out of My Mind. Nel mentre, la Buzzi ha rivelato il suo disco dell'anno. Il suo disco dell'anno è questo, Extinction Level Event 2, e batte persino i Run the Jewels, che, giusto? Hanno sempre fatto il disco dell'anno ogni volta che sono usciti, a parte questo. Però bisogna dire di Busta Rhymes, cioè la grande qualità, si potrebbe dire, forse la qualità più alta di tutte, la poliedricità. Correggetemi se sbaglio, perché ha fatto pezzi di qualunque tipo e ognuno spacca. Cioè, forse il pezzo più famoso è quello con Mariah Carey della Fleetwood Squad, You Know I Know What You Want, che non c'entra niente con queste robe che stiamo ascoltando e con in generale la produzione, però appunto ci si mette. Anche io recentemente mi sono riascoltato The Coming, cioè It's a Party, che è proprio un classico pezzo anni 90 cantato da Zanè, cioè, capito, con ritornello R&B, e spacca pure quello, cioè niente da fare, ragazzi, è stato programmato così. Quindi niente, abbiamo la classifica anche della Buzzi. E volevo salutare sia mio amico Izzy, per cui appunto Pray for Paris è il disco più bello dell'anno, forse a pari merito con From King to a God di Conway. E poi volevo salutare il resto della nostra crew di Underground Pusher, quindi i nostri amici Pulsar, il nostro amico Mauri e il nostro amico Cesa, che appunto fanno parte di questo squadrone e con cui appunto condividiamo, oltre che Underground Pusher, anche altre due, come dire, altre due trasmissioni, che sono Up Talk, in cui ci sono le interviste appunto ai rapper italiani, quindi si discute delle ultime uscite fatte dall'artista ospite, e insomma adesso concept dell'album, e tra l'altro molto spesso sono in diretta video, giusto? O il video audio, e poi, poi c'è il video, poi c'è il video montato dopo, e poi c'è invece Up Digging, che appunto scava nei sample della storia del rap italiano, quindi insomma è anche un bel momento di cultura musicale, appunto, perché alla fine, come diciamo, il rap pesca a piene mani da questo. Quindi con questo disco Busta Rhymes resuscita anche i morti e ricorda una bellissima collaborazione di qualche anno fa che si chiamava Hoo-ha, You Got All In Check, proprio su The Coming, che abbiamo nominato prima, con la buon'anima di Old Dirty Bastard. In questa traccia qua lui duetta appunto con la voce ovviamente registrata di Old Dirty Bastard, ormai scomparso 16 anni fa, e appunto il ritornello è preso da un grande classico che è Brooklyn Zoo, e questo pezzo si chiama Slow Flow. Let me love you. I wanna do my new rhymes and shit, man. You know what I'm saying? I don't know them shits. Yeah. Come on. It's that shit. Oh, shit. That's that Wu-Tang shit, my nigga. Check it. Yo, this to all them fucking MCs out there in the world that think they can fuck with the Old Dirty Bastard. You know what I'm saying? Yeah. Come on. What? I'm here to shock this old piece real quick, know what I'm saying? Check. Sick and cataclysmic, how I mastered the wicked division of spitting, nigga, pass what you wishing, the super surpassing your vision, and whatever you thinking, of course, bags are sick and make them gag when I'm shitting, type of flow, see the fact is I'm back and I'm stacking them up, how I'm heating the planet, niggas be calling me solar maximum, so effortless in how I'm attacking them, even when I'm resting, I'm black and niggas see the results and action, happen like checking the pulse of a corpse when I show them no reaction, ignoring you, nigga, boring me, nigga, back to stacking this paper, exactly the lyrical impact is so literal, criminal, priceless. Every valuable mineral, super subliminal, becoming the future like digital data. Pivotal moments, she get critical haters. See what I make the DJ do to the fader. Rest in peace to Rock Raider. Body niggas now elated, traumatically major, dramatically catered to niggas that want it and eat it and live it and farther just to open their vein and bleed it. I superseded the situation every time, it's hard to defeat it. The unstoppable, you need it. Ho-ho-ho, let me like slow up with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. Ho-ho-ho, let me like slow up with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. No. Introducing your fuck that nigga's name. My hip-hop drops on your head like rain. And when it rain, it pours. Cause my rhymes hardcore. That's why I give you more. Yo, the tables is turning. I'm enjoying just burning you niggas in school and tutoring and learning you niggas. So peep the way that I come and weed them out beyond a reasonable doubt. I ain't rushing, I'm taking a scenic route on my paper trail to unveil and just derail all irrelevant traffic and clear the lane and deliver the illmatic while keeping you hyper and keep you ecstatic while I'm bringing shit harder. Especially when it's dark, I'm a midnight marauder, not ready by little bitch, hope you know I'm ready to die is the best. Appreciating this nigga life after death, but in the meantime while I poison you niggas with the heat for the blocks, scratching and fiending, needing a detox while you screaming, I'm shining and gleaming and cleaning up the game in a mink while I give you what's only built for Cuban link, nigga. Incredible host, America's most wanted, hole in the fort, documented, reporting the war report, giving you the crack, nigga, New Jack City, that caught a fire for the niggas that got appetites bigger than dinosaurs, like, every time I spit, I get rid of a few, this is extinction level event, Ho-ho-ho, let me like slow up with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. Ho-ho-ho, let me like slow up with the flow. If I move too quick, oh, you just won't know. No. Introducing your fuck that nigga's name. My hip-hop drops on your head like rain. And when it rain, it pours. Cause my rhymes hardcore. That's why I give you more. Ah yeah, e questo era Busta Rhymes, prodotto da Nintendo, Super Mario probabilmente. Idolo. Idolo. Beh, io ho apprezzato tantissimo anche appunto Old Dirty Bastard, io l'ho ascoltato tantissimo, e Brooklyn Zoo è uno dei miei pezzi preferiti, quindi tra l'altro bisogna dire che è stato proprio estrapolato del tutto, perché il beat di Brooklyn Zoo non è affatto ballabile e invece qua alla fine l'ha trasformato in una roba anche abbastanza club. Allora, diciamo una cosina, perché appunto questo album ha comunque una storia abbastanza lunga, oltre ad essere lungo lui, cioè sostanzialmente Busta Rhymes ha annunciato questo disco nel 2013, però appunto nel corso del 2014 ha continuato a promuoverlo quest'album. All'epoca lui era con Cash Money Records e il primo singolo che appunto è stato pubblicato era un singolo che insomma è stato anche abbastanza famoso, che era un singolo club con Nicki Minaj che si chiamava Twerk It. E poi era uscito anche un pezzo featuring Q-Tip, Lil Wayne e Kanye West che si intitolava Thank You, e un pezzo con niente proprio di meno che Eminem che si intitolava Calm Down. Però cioè, nonostante avesse cacciato fuori questi tre singoli bomba con tre ospitini, sostanzialmente il fatto che abbia interrotto il suo rapporto nel luglio 2014 con Cash Money Records ha fatto lasciato un po' la cosa così in sospeso, e quindi nuovamente l'album è stato annunciato quest'estate ad agosto tramite un video su YouTube, e appunto poi è stato pubblicato ufficialmente il 30 ottobre. Come dicevamo prima, giustamente ogni album ha la prima versione e la versione deluxe al giorno d'oggi. La versione deluxe è uscita il 2 novembre, cioè senza neanche por tempo in mezzo. C'è una cosa bellissima che è un video di Busta Rhymes che legge tutti i commenti entusiasti per il suo album, e sostanzialmente sono talmente tanti, cioè che ovviamente i complimenti fanno piacere a tutti. Però sono talmente tanti questi complimenti da parte di rapper, di fan, sostanzialmente lui l'ha fatto in diretta in Instagram, credo, adesso non so, io l'ho visto su YouTube a posteriori, sostanzialmente è talmente contento e commosso che si mette a piangere per la contentezza. Cioè, è comunque idolo. Cioè, un artista veramente a tutto tondo. E diciamo, questo è un po' di storia del disco. Ci sono due singoli che vi lanciamo in coppia che sono delle mine. Uno si chiama Boom ed è veramente in piena attitudine giocherellona alla Busta Rhymes, e segue appunto un featuring con uno dei nostri preferiti che è Anderson .Paak, che si intitola Yuhu. See how they try to pin it on me. Boom. And if the cap fit, pin it on me. Got love in every hood, they been waiting for me. Hey, bottom down, wave it down, shit. I got about a million on me. Boom. Come for the ride, my niggas, come on. Yes. Come for the ride, all my bitches, come on. New endeavors, we do whatever, we glue the deficit. See who's the sideline, nigga, come on. Boom. Come on. Come look, on. See how we go back. Digging the soul out the bitch, come on. Find a way to escape, come on. On my journey, don't turn me into an ape, come on. Delany with my asparagus. I do the ding, ding, gong, energy, ginseng, my boo-joo, bantan, flow. You ain't with me, you niggas gone wrong. Oh, Bobby Digidoo, bang up your head, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. I beat the sensei, hey, make sure you know, don't ever go against me. You could end up a victim for a call out the next play. Hey, hey, see how they try to pin it on me. Boom. And if the cap fit it on me. Got love in every hood, they been waiting for me. Hey, I'm about to blow, I'm away with now, shit. I got about a million on me. Boom. Better deal with the king, say, hey. Gone on the flash, looking like Kunto Kinte. Looking to court a few bodies, that nigga been great. Been great. Play him out in the display. Boom. Got no love in the way I make shit shift. While I'm keeping them strong, handle your bitch. What? Bust your head and I make it split. Give it good. While I make it hard to forget. What? Every rip, every interval, and we fucking shit up. Trouble is at a minimal. Global bitch, we killing New York way down to Senegal. Hey, hey, see how they try to pin it on me. Boom. And if the cat fit, pin it on me. Got love in every hood, they been waiting for me. Hey, I'm about to blow, I'm away with now, shit. I got about a million on me. Boom. Come for the ride, my niggas, come on. Yes! Come for the ride, all my bitches, come on. Come on. Hey. See how they try to pin it on me. Boom. Come for the ride, my niggas, come on. Yes. Come for the ride, all my bitches, come on. Come on. Hey, hey. See how they try to pin it on me. Boom. I tell you something, you know, every sound, pack up your CD. Pack up the pouch, yeah. Put up the laptop, yeah. The laptop, yeah. Hey, hey. See how they try to pin it on me. Boom. Pack up the charger. Bitch, I had to bust a U. Came right back to get that loot. No, I had to finish what I started. No, it ain't too late to turn around, is it? bitch, I had to bust a U. Came right back to get that loot. No, I had to finish what I started. No, it ain't too late to turn around. Turn around. Running up the numbers on the cash chase. Stretching out of the work just like elastic. Fucking with one of the bitches with a bankroll. Know how asses fake us, how eyelashes. Stepping out of the beam of dirty vans on. Passing up on them offers I don't need though. Long as I am a legend in my hometown. Respect is why I did it from the ego. Yeah, no, I can't wait today. I can't wait today. Thought I lost it all, like everything. Bitch, like everything. Came back from my bag, I'm back to play. But don't play with me. I can turn it all around today. I ain't never late, never late. I can't wait today. I can't wait today. Bitch, I need my bed like yesterday. Bitch, like yesterday. Green like green night. Lord, I left a couple bags on the stand. Feeling like I owe a couple checks. Now I'm getting back like I never left. Bang a left. Bitch, I had to bust a U. Came right back to get that loot. No, I had to finish what I started. No, it ain't too late to turn around. It's... Come after me, no, you don't wanna do that, nigga. Do that, nigga. And I'm hoping that you all agree. You don't want a problem, true that, nigga. True that, nigga. And I'm schooling you all just a little, probably like it was a new rap, nigga. New rap, nigga. And I'm claustrophobic a lot, and I think you better move back, nigga. Move back now. Please get up, wait for me. I don't really wanna talk about nothing. Shut up, nigga. And my money ain't what it's supposed to be. That's when a nigga gun start buzzing. Bah, bah. Clang, clang, clang, clang, clang. Shells hit the floor, more shots coming. More shots coming. And instead of you trying to talk to me, motherfucker, better talk by running. Shut up, everything about me new. I'm back in the mail with the dude. Best you ever saw. Heavy metaphor, medical. Precautions will be needed. Crazy like a pack of animal. Hope you all got a proper view. So sick, I need to let the doctor through. Look, yes, respect this rap. Never miss a step. Disrespect. To give a fuck about your plug. Y'all know be the plug connect. Double triple. Check. Lord, I left a couple bags on the stand. Feeling like I owe a couple checks. Now I'm getting back like I never left. Bang a left. Bitch, I had to bust a U. Came right back to get that loot. No, I had to finish what I started. No, it ain't too late to turn around. Oh, e questi appunto erano due super singoli che sono stati accompagnati anche da due super video. Attenzione, anche lì c'è una produzione di video abbastanza importante, perché credo ne siano usciti 5 di video, sì. Cioè quelli due che abbiamo detto, Czar e Out of My Mind con i Bell Biv DeVoe, Boomp, in cui sostanzialmente Busta Rhymes sfoggia una casa al di sopra delle nuvole. Il commento più votato su YouTube, che spunta per forza anche se te lo guardi da smartphone, era gli invidiosi diranno ora che la sua casa non esiste. Certo, si potrebbe dire così, mentre invece Yuhu credo che sia stato uno dei primi singoli a uscire, sì, anche in video, ed è bellissimo. Ero convinto neanche fosse parte dell'album, con Anderson .Paak. Praticamente è un video in bianco e nero, ma bianco e nero cartoon, in cui Anderson .Paak e Busta Rhymes sono come se fossero Beep Beep e Will Coyote, cioè sostanzialmente si lanciano la dinamite, si fanno gli attentati esattamente in stile Looney Tunes, quindi senza vera violenza o con una violenza dissimulata. C'è una roba anche lì piuttosto pazzacchiona. Poi mi sembra che c'è un video in cui c'è Rick Ross. Che dire? Busta Rhymes ha, come dire, promosso l'album mostrando una fotografia di sé prima del disco e in prossimità del disco. Siccome praticamente è un colosso proprio come fisico, insomma, non essendo neanche un ragazzino, aveva anche un po' di panza, sostanzialmente ha detto: non volevo pubblicare il mio album senza essere nella mia migliore forma fisica. E si vedeva poi dopo, sembrava una di quelle pubblicità tipo con il nostro prodotto dimagrirai. Però è una causa che abbiamo deciso di sposare anche io e Gigi, Quindi quando ci vedrete dimagriti e palestrati, ora direi che staremo per pubblicare il nostro disco, quindi tenetevi aggiornati che arriva il nostro disco sul nostro peso. Io sto scalando un pochino, ma io non te lo saprei dire. Vabbè, nel caso poi fatti Instagram. Nel caso poi faccio un disco. Esatto. Allora, noi abbiamo un'altra coppia di singoli bomba. Il primo, che ci stanno per, come dire, per siamo alle battute conclusive della puntata. Il disco è molto lungo, abbiamo voluto scegliere delle tracce caratteristiche. Questo è un featuring con niente proprio di meno che Kendrick Lamar, e si intitola Look Over Your Shoulder. I wrote my first bars in the car with Stacy. How bizarre, my battle scars at large will lace me. Big marbles, nigga. I lead this new generation, boy, don't argue with us. Marvelous beat selectors, authors, and novel spitters. And it's all for the literature. And it's all for the hideous, the nastiest flow, the chlamydia. I ain't afraid to say I need you, yeah. I promise I never leave you, yeah. My life is like 12 open mics of hopeless notes. I write for show, my folks unite soon as the flow get nice. The boat, the guys that scare MCs, my prototype forever read. My share of D's and RIPs, you know my type of style. It's like my everything, apparently. My appetites, they famish, bite no end. They feed the culture, vote your guy, you bleed. My focus, hold his thoughts and dreams, control his pen. Look over your shoulder. The boldest lines and rhymes and things, devote my time and mind. It seems I'm posed to shine, remind them king. Provoke the blind and bomb the fiends. The pros, the cons, the diamond rings. I vote with time, but I'ma bring the soul divine. And cross between what's yours and mine's, the gold, the green, the roof that showed just what it means. To grab Shakur, divide the wing and fly before my vocals. Scream! For hip hop, look at my Ziploc bag full of goodies, you Chris Rock. Hit the Pookie and pit stops, it's poop socks. Baby, you a hell of a drug. Just look over your shoulders when they fuck you over. It's love, I know ya. Body the game to the point niggas scared to rap with me. Kept burning to the anointing me, one of the kings of black history. And yes, I see the game was a little different, niggas lack simply. Them bars and I spit them like darts till they puncture your kidney. You trash, and it don't matter how much you want trying to convince me. You gon' make my gun cock and tuck on the way, yeah. I am the Buddha, the Alibaba, the believer or maker. So pristine, the dice roll from under my sleeve when I shake them. So rude, I'm so ice cold, but I'm what you need to just rake them. All them crowns and medals on the wall waiting for me to just take them. When I arrive, my theme music got a pound to it. And when I leave, even my shadow got a sound to it. Cause I'm the god of the heart of the martyr, the father. I spit a saliva that's leaking the lava, completing the saga while meeting and greeting and beating you niggas completely conquer. Extremely barking the nigga, you see me, you deeply carve up a nigga. Believe me, graffiti your armor, you heebie, you GB bikini, your brother. You guinea pig. See me, now give me this order, but treat me, you greet me, you meet me with arms up. So sweet when I speak heavy, it was deep, I was sleeping and the guards up. Upholding the fundamentals while most of you boast a rental. Focus on what's most essential, spit bars to provoke your mental. Do I have your entendimiento while I clap these raps like thunders? Look over your shoulder, boy, and wonder. Puntata dedicata ai dischi dell'anno, abbiamo raccolto qualche opinione, appunto qualche sondaggio, appunto secondo Dre e secondo E secondo Izzy, Griselda, Izzy mi ha messo appunto sia West Side Gun che Conway, Dre mi ha detto in generale Griselda è probabilmente quello che ha spaccato di più, però appunto ce ne sono tanti. Sapo Gulli è arrivato dicendo assolutamente grande Jewels, anche secondo Yax, secondo Gigi e Chiara e Basta Rhymes, secondo Tuschetti voce fuori dal coro è Detroit di Big Sean, però anche il nuovo disco di Aesop Rock che si intitola Spirit World Field Guide. Devo dire, questo me l'ero un po' perso, non mi ero accorto onestamente, però me lo ascolterò. E boom, che abbiamo ancora? Abbiamo l'ultimo singolo, appunto un featuring R&B, cioè su quest'album c'è sia un featuring con Mariah Carey sia con Mary J. Blige. Abbiamo scelto secondo me la traccia più bella delle due, secondo me ha voluto fare un po' il paio, voleva fare di nuovo il nuovo I Know What You Want, ma non ce l'ha fatta. Tra l'altro quest'estate io ho preso Call the Ambulance, I Know What You Want in vinile, doveva essere così, invece è da un lato e dall'altro Call the Ambulance, no. Quindi non ce l'ho, I Know What You Want, però vabbè, prima o poi lo ribeccherò. Speriamo che sia quello giusto stavolta. Comunque, il pezzo che vi presentiamo è un pezzo veramente bello, ma a me è piaciuto tantissimo, con appunto Mary J. Blige, super informissima, una delle regine dell'R&B. Il pezzo si intitola You Will Never Find Another Me. Was high, not good enough for you. You think I'm that easily replaceable? Trust me, you'll never find another me. Notch of the block and don't stop. Chimney hot till they miss me a lot, like Biggie and Pac, till they come get rid of me. Not exposure disability, I'm posing like publicity shots. How remarkably we got this shit toned, trying to take me out of my zones, like trying to squeeze blood out of stone. Build a wall with every stone that was thrown, the feeling got me taking them home. You ever seen a crown that was chrome? Listen, will I exemplify the spirit that they want to be again? There will never be another me again. Mary! Once I was built, God broke the mold. No matter how many clones you make, they can't touch my throne. Oh no. People ask why I don't put up a fight, why I'm not angry and bitter. I don't have to fight for what's mine. The truth is not a quiet thing. Walking with us on everything I love. I wear that pain on my sleeves in everything I does. Sometimes I pause when I breathe, reflect on what I was, how far I've come, and I rep it and do it just because. We dig it deep, so come with me and let me take you to it. If we don't do it, who else gonna do it the way we do it? The old wise man on the corner, sipping whiskey. He always said, when I'm gone, watch how I make him miss me. I took those words and I live them, no matter how I suffer. And while I'm here to love you, there'll never be another. E io, questo era il pezzo conclusivo di questa nostra cavalcata. Appunto, ovviamente il disco è molto lungo, quindi abbiamo scelto, diciamo, i singoli più fighi secondo noi, però ovviamente vi invitiamo ad andarlo ad ascoltare, perché comunque è un disco che probabilmente questo, così come gli altri che vi abbiamo proposto, rimarrà nel tempo, cioè considerate appunto che siamo nel 2020, quindi diciamo molto spesso un disco dura un giorno quando va bene, quindi diciamo a me piace il fatto che sia roba che probabilmente tra qualche anno suonerà ancora bene. Questo sarebbe il momento dell'aneddoto, ma cavoli, ne abbiamo dispensati talmente tanti, io ne dispenserei uno sulla trasmissione ormai, insomma abbiamo fatto parecchie puntate. App di Underground Pusher, ma è nato da un ballottaggio tra App, che era quella diciamo più potenziale, in quanto vuol dire andare su, ma anche Underground Pusher, ma c'era in ballottaggio comunque anche la nostra esclamazione tipica, che è cazzo fratello, quindi diciamo è stato un ballottaggio molto importante. Poi abbiamo raccolto anche il disco preferito di DJ Libero di quest'anno, che è il mixtape di Gigi D'Alessio, giusto? Bravissimo. Grande libero, buongiorno, il disco di Gigi D'Alessio, che è un mixtape molto importante con la scena napoletana, Trap Folk. Che dire? Ah, beh, sicuramente una curiosità sulla trasmissione c'è, che noi non sapevamo neanche da dove partire e quante puntate avremmo fatte. Ne abbiamo fatte tra Underground Pusher, Up Talk e Up Diggin, almeno 20 puntate, cioè noi ci eravamo detti vai, facciamone una, e poi è diventato un qualcosa di particolarmente frequente, quindi insomma come cosa a me dico la verità, non me l'aspettavo. Io l'anno scorso ho fatto la lista dei buoni propositi, quest'anno non la faccio perché cazzo, però devo dire, me l'ho detto, guarda, se facciamo 10 puntate sarà buono, che qua c'è da uscire pazzi, invece ne abbiamo fatte 20, sono contento. E boom, che dire, quindi ringraziamo tutto il team di Underground Pusher al completo, quindi ringrazio il mio compare Gigi. Grazie Nino, grazie a te. Prego, di nulla. E ringraziamo anche il buon Cesar One. Ciao Cesar. Il buon Mauri, a.k.a. Pneuma. Bella Mauri. Buon Pulsar, che ha composto inconsapevolmente la sigla del programma. Esatto, però ti spoilerò sta cosa. Ho chiesto a Rap Caverna Posse se fanno un 2 barre a testa per fare la sigla nuova del 2021. Grandioso. Forse nel 2027 ce l'avremo davvero, però lo fanno sul beat di Pulsar? Sì. Cioè, oppure riprendiamo la voce picciata del baffo e facciamo una roba alla Busta Rhymes sul beat Nintendo? Ci starebbe. E che dire? Quindi ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno tenuto compagnia. Quindi oggi il grazie per DJ Libero e la Buzzi, per tutti coloro che ci supportano, per lo staff di Radio ZM. Noi, come di consueto, abbiamo come ultimo pezzo un pezzo classico, perché appunto diciamo questi dischi di oggi potrebbero diventare dei classici domani, un classico di ieri italiano che spingiamo da sempre, penso per sempre, perché è uno dei nostri dischi preferiti, si intitola Ancora in piedi dei Melma e Merda. Ancora in piedi dopo un top di crash, testimoni già di troppi flash, one glance and you believe it, Melma e Merda, trasforma difetti in pregi, e qua non può finire in piedi dopo un top di crash, testimoni già di troppi flash, one glance and you believe it, Melma e Merda, trasforma difetti in pregi, e qua non può finire in pregi, gli infelici sono presenti, fiamme spente, in meno di un istante, fuori da niente, fuoco incandescente, territorio confinante tra nirvana e sclero, l'infinito è zero, la via che va percorsa per intero, ain't no half steps, nigga, oggi cazzo credi, servono i fondamentali, più spessore tipo 3D, always ready, rotto, viene da sotto, stress indotto, cause I'm about to take you straight to the dope zone, breath your breath out of your chest and box your head, blow your face out of its place, automatically squack the crap out of a sucker's ass, and back and slack your flesh until this shit is blast, raccogli resti, giù un cielo, bisser on fire, prima che appaia, ciò che va a cuore è stato playa, Thousands of motherfuckers running out from the sewer. E migliaia coi bagagli sta bussando a casa mia. Ma chance to get a testimoni già di troppi flash. One glance and you'll be laid back. Nel mare merda trasforma difetti in peggio. Slime shit non può finire. Ma chance to get a testimoni già di troppi flash. One glance and you'll be laid back. Nel mare merda trasforma difetti in peggio. Slime shit. Tons of rhymes scratch in the casket. Junk lead beats in the basket. Cast a cast, confront for your ears to get blasted. Mastered by the supreme three, untouchable nigga. Incredible, drink cool fellas under heavy liquors. Creati blindati, astrati, ghiacciai e spasso portati. Oltre il limite in cui niente c'ha più senso. Armati, solo di forte, il resto non serve a molto. 6 million ways to die. Non è già stato scelto. Secreto sul cemento top, nella scala Richter. Ce l'hai già scritte, per celebrare in campo le sconfitte. Tanto quanto le vittorie in zona, sai come funziona. Testimonia di persona, we got a little good cascade. A mess in a box, stuck and locked. Drop to rock the spot, to reach the top. Lyrical doctrine, profession. The capital ends, professional jam session is then the mission. So listen up. Scritte in veleve di incise sulla fortuna. Siamo schiena contro schiena. Siamo anelli della stessa catena, realtà aberrante. Siamo sopravvissuti a troppe storie. Sono istante, troppe follie ordinarie. Grave me, bla, baci da Baghdad. Favorevoli condizioni, simile a un blackout. Nuovi prezzi al buio, c'è solo una mossa che ne sa dove restare in piedi tra le priorità. Ancora in piedi, dopo un po' di trash. My chance to get a testimoni già di troppi flash. One glance and you'll be laid back. Nel mare merda, trasforma difetti in pregi. Slime shit collision. E qua non può finire in piedi, dopo un po' di trash. My chance to get a testimoni già di troppi flash. One glance and you'll be laid back. Nel mare merda, trasforma difetti. Underground Pusher, ultima traccia dell'ultima puntata dell'anno, e in quest'album qua, Merma e Merda, che ci siamo ascoltati tantissimo, appaiono tutti monumentali, ma forse il più monumentale è Deda, e questo mi fa ricordare una, penso, se non è la più bella, no, mi sa che per me è la più bella, tanto oggi è il giorno delle classifiche, per me la più bella serata fatta a ZAM è stata quella dell'estate del maggio-giugno 2014, con appunto come ospiti Black Beat Movement e Deda, a.k.a. Katsuma. Cioè, ne abbiamo fatte sicuramente tantissime belle, tantissime bellissime, ma penso che la più bella di tutte sia quella con appunto Deda, che è un artista veramente con la maiuscola, veramente mi è salito un po' quel brividino. Tu che dici, Gigi? Fu una bella serata, ci divertimmo parecchio. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare il mio amico Gelo, che ha ancora gli stessi giradischi che sono stati autografati da Deda quella sera. Bella roba. Allora, questo sarebbe il momento degli eventi. Come potete ben capire, insomma, gli eventi non ci sono in questo periodo, però la radio è sempre attiva anche in questi giorni di zona rossa, come dire, il Natale rosso. Magari l'anno prossimo sarà un Natale rosso come intendiamo noi, però appunto continuate a seguirci, perché comunque si continuerà a fare informazione tramite quest'organo che è Radio ZM, che domani ci sono le ribelli, infatti credo alle 17, domani se non sbaglio ci sono le ribelli, e appunto comunque le brigate di solidarietà resteranno attive. Con questa saluto anche il Crooklyn, che mi ha detto: cavoli, ma i centri sociali sono attivi in questo periodo? Perché effettivamente con lo smart working non sono più tanto sul pezzo. Io ho detto: non ti preoccupare, Fornace, Lambretta, ZAM, tutti i centri sociali di Milano e provincia sono sempre attivi, stanno facendo le brigate di solidarietà per dare una mano a chi è in difficoltà. Quindi un big up a tutte le brigate appunto di solidarietà, hanno tutti il nome dei partigiani, io come al solito le confondo, mi sembra Brigata Visone è RO. Brigata Lena Modotti e Lambretta, esatto. E la brigata di ZAM è? Brigata di Solidarietà Popolare Milano Sud. Brigata, l'unica senza il nome partigiano. Perché non vogliamo discriminare partigiani e partigiani. Ok. Quindi diciamo un grande, veramente un grande grazie e un grande big up a appunto alle brigate, anche perché insomma chiunque abbia una televisione o segua Facebook penso che avrebbe voluto lanciare l'apparecchio dalla finestra con la vista ennesima di Giuseppe Conte che chiude così a caso. Vabbè. Quindi diciamo big up pure al Crooklyn, bella lì, che lui mi ha detto il disco dell'anno è senz'altro Music to Get Murdered By di Eminem. Non so se a questo punto potrebbe dirmi anche il lato B, perché è appena uscito, quindi vabbè. E allora, quindi questo, poi appunto eventi, diciamo i dischi sono usciti, però volevamo segnalare che in questi giorni è uscito il disco di DJ Libero, che trovate appunto su Spotify, quindi sono una marea di featuring anche piuttosto importanti, con strumentali autoprodotte. Noi insomma ci vediamo, si spera presto, al termine appunto di queste zone rosse, con delle nuove puntate, dei nuovi ospiti, delle nuove cose. Io però vedo una bellissima playlist che sicuramente dedichiamo a Sapogulli, l'ho fatto apposta per Gulli, perché ovviamente lui si è perso la prima parte della puntata, che dovrà riascoltarsi in podcast sui Rande Jewels. Quindi Gigi nel frattempo ha cucinato una sugosa minestrina di pezzi dei Rande Jewels. Mi sembra che il primo sia Jeopardy, non male. E allora, un saluto affettuoso a tutti, ci sentiamo presto. Yo. Dalla riga.